è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara mi rende isterico di Giuseppe Cruciani. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Prima punturina della serata, caro David, prima punturina. Riprendiamo una polemica della scorsa settimana, anche se c'è diversa, molta carne al fuoco, nuova carne al fuoco. La polemica è questa, ma ci sei o no? Certo che ci sono, volevo intanto congratularmi con il coraggio che ha dimostrato la CEI, un coraggio proprio incredibile. Che ha fatto la conferenza episcopale italiana, cosa ha fatto? Coraggio da leoni, signor Bagnasco, è una cosa importantissima, scandali inaccettabili, la classe politica li sottovaluta, è una dichiarazione roboante quella del signor Bagnasco. Fondamentale direi fondamentale anche. Un comunque, coraggio da leoni proprio. Abbiamo capito finalmente perché la seduta del Senato italiano, che è la seconda, no, grande istituzione di questa Repubblica dopo la presidenza della Repubblica stessa, è stata a un certo punto sospesa per mancanza di vicepresidenti. Abbiamo finalmente capito perché. La signora Rosy Mauro, vicepresidente ex Lega, adesso di un gruppo di cui non ricordo nemmeno il nome, anzi capo di un movimento di cui non ricordo neppure il nome, la signora Mauro a un certo punto se n'è andata perché aveva l'aereo. Hai capito perché, Parenzo? L'hai letto sui giornali perché? Come no? Perché? Un aereo per questioni sue private. Non hai capito nulla, naturalmente. Non hai letto nulla, sì, non è che doveva andare a bere. È andata a una riunione del sindacato padano, dove c'era anche la Marone e tante altre cose. Il sindacato padano, Rosy Mauro, Nania era in Sicilia per le regionali e non ha preso un aereo in tempo, perché mai prendere un aereo con qualche ora di anticipo. L'unico giustificato era Vannino Chiti, mentre pure la Bonino era un convegno. Risentiamo la signora Mauro, che a un certo punto lascia il Senato da solo. Ecco, colleghi, sono costretta a sospendere momentaneamente la seduta in attesa che arrivi il vicepresidente di turno, perché ho degli impegni anch'io purtroppo. Era previsto per le 11:45, sospendo momentaneamente la seduta. Reciotto e amarone, selezioni di prelibati formaggi locali, salami, prosciutti, pizzette fatte in casa, tartine con salsine da leccarsi i baffi, olive ascolane, mozzarelline impanate, oltre a taralli e pane appena sfornato. Questo c'era di menù alla riunione del sindacato padano, dove d'urgenza doveva recarsi la signora Mauro. Cari amici. No, la cosa grave è che esiste ancora un sindacato padano, questo è il punto. Esiste per quattro gatti, non è che esiste. No, cioè, ma c'è il fatto che esista il logo sindacato padano, cioè quello è gravissimo secondo me. Al di là poi vabbè, ma sono cose inesistenti, cioè non è che ci sono iscritti al sindacato padano, non c'è nessuno. Riprendiamo. Se c'è qualche iscritto chiami alla zanzara, se c'è qualche iscritto al sindacato padano ci chiami in diretta. Riprendiamo alcuni argomenti, Beppe Grillo a un certo punto si rivolge così ai fotografi nel fine settimana, sentite, fotografa le facce, senti. Sono io lo stronzo, tu cosa fai? Che lavori fai? Che lavoro? Allora fai il fotografo, vai a fotografare le facce da culo dei politici, non qua. Vai! Bene! Sopra i pattini a rotelle, come il vento andavi tu. Vabbè, che lui che fa? Non fa politica anche il signor Grillo? Vabbè. I giornalisti, merde, sentite. Se la prendono con lui! 86 euro in tre mesi hanno speso! E nessuno di queste merde di giornalisti va a chiedersi chi ha rubato 1 miliardo di euro a Parma! 1 miliardo di euro è sparito da questa città! Beh, non c'è bisogno, per affermare una verità, cioè che a Parma hanno saccheggiato un po' la città, non c'è bisogno di anche perché i giornalisti ne hanno parlato del saccheggio di Parma, non è che non ne hanno parlato, caro Grillo. Anzi, il motivo per cui tu hai vinto a Parma è proprio perché alla stampa ha fatto cadere la giunta precedente. Non è che l'hai fatta cadere tu la giunta, Grillo. Non è che a Parma la giunta l'hai fatta cadere tu. Bravo. Poi se la prende con noi, senti. Invece qui vanno alla radio ufficiale di Sole 24 Ore, questi giornali che prendono rimborsi elettorali con le mie, con le tue tasse. E poi mandano uno alla sua radio a dire che io prendevo il nero nel 1996, ho fatto una serata alla CGL e ho preso 20 milioni in nero. Meno male che io sono di Genova, non butto via niente. Avevo la fattura. Avevo la fattura. Però l'ha smentita, l'avete letta da qualche parte. Ecco. E allora, e questo qui che l'ha detta si è scusato. Ha detto mi scuso, è stato un errore così, fatto in buona fede. Ma non è colpa sua, lui è uno scemo. La colpa è di chi gli dà voce in una radio che fa un milione di ascoltatori. La colpa è il media che trasmette il messaggio. Gli ascoltatori sono un po' di più e volevo informare il signor Grillo, che evidentemente non conosce quello che accade, che il signore in questione ha chiamato lui alla radio, non è che l'abbiamo coinvolto noi, l'abbiamo fatto parlare dopo. Sì, aspetta un secondo, dopo abbiamo chiarito tutto eccetera eccetera. Comunque si calmi perché non pigliamo un euro qui dallo Stato, un euro. Bello, possiamo andare in onda, possiamo andare in onda anche senza aiuti dello Stato. E comunque poi se ci sarà da dire qualcosa sui piccoli aiuti che si ricevono si dirà, senza problemi. 800 24 00 24. Alemanno dice che ci vuole un azzeramento nel centrodestra, ci sono sempre voci insistenti sulle dimissioni possibili della Polverini. Ma perché Alemanno parla adesso di azzeramento nel centrodestra? Vorrei capire, Alemanno. Credo che ci voglia un azzeramento totale all'interno del centrodestra. Noi dobbiamo rifondare il centrodestra, rifondare una realtà che ha bisogno. Vabbè. Che c'è da aggiungere? Beh, c'è la Minetti, tante altre cose, Sostegno a Renzi da parte della Minetti. Vogliamo sentire il sostegno a Renzi in questa sfilata? Sì, questa è buona. Questa sfilata, la Minetti pro Renzi, una sorta di congiura contro Renzi, sembra, Io ho detto Renzi prima perché comunque essendo un giovane mi sembrava doveroso, insomma, io sono a sostegno dei giovani. Non mi fate, io sono a sostegno dei giovani, va bene. Tranne, vabbè, lasciamo perdere. No, dico, manca solo che, non so, uno della banda della Magliana dica io voto Renzi alle primarie, così l'hanno fottuto. No, sempre. C'è un'altra cosa che è Frattini, però lo ascoltiamo più tardi perché adesso abbiamo un ospite, il quale solamente adesso si accorge che è una porcheria aver candidato la Minetti. Me l'ha visto i gesti. Solo questa mattina se ne accorge, da Alessandro Milano. Dici che stava sempre all'estero. Se può sciare, stava all'estero. Io volevo capire dal nuovo portavoce della campagna delle primarie di Bersani, che è il vice sindaco di Vicenza, Alessandra Moretti. Buonasera. Buonasera del Partito Democratico. Senti che bella voce veneta e squillante, giovane. Lei mi capisce, Senta, signora Moretti, come la posso chiamare? Signora Moretti, va bene? Oppure Alessandra? Avvocato, grazie. Ah, bene, avvocato Moretti. Parente di quel Moretti? Che no, ma che c'entra quello delle ferrovie? Sei fissa? Lei è parente dei Moretti delle ferrovie? Non è che Moretti ce n'è solo uno. E neanche di quello della birra, purtroppo. Beh, nel senso che le piacerebbe, altrimenti non ci sarebbe bisogno della URA, come dire, no? Esatto. Vabbè. Scusi un attimo. E neanche di Nanni, evidentemente. Nemmeno di Nanni Moretti, giusto? No, neanche di Nanni. Moretti Vicentina, una autoc, senza parentele illustri, come dire, no? No, non ho parentele illustri, no. Senta, scusi un attimo. Ho dei gran parenti, però. Non illustri. Vabbè, chi se ne frega, non è uno deve avere forza parenti illustri. Scusi, signor Moretti, io vorrei capire una cosa da lei, ma come lo vede questo appoggio della Minetti a Renzi? È una cosa appropriata? Cioè i due possono andare d'accordo, secondo lei? Straordinario, io lo trovo straordinario. Poi il detto in mutande e reggiseno è veramente fantastico. Fantastico, straordinario. Ecco, ma i due hanno qualcosa in comune, secondo lei? Ma no, dai, adesso io sto scherzando, evidentemente. No, lei non deve scherzare, io voglio capire se so, secondo lei la hanno... La passione per la moda, per le cose belle, magari. Quello è vero, perché Renzi è stato anche alle sfilate recentemente, no? Sì, dunque, i due possono avere questa cosa, cioè sono un po' fighetti tutti e due, mi dica la verità, cioè, no? Secondo me Renzi è uno che si lecca un po', sì, nel senso che si tira, gli piace mettersi un po' di brillantina, no? Sì. Uno giusto, sì. Sì, però, cioè, se proprio... la biancheria intima tutta a posto, firmata, bella, questo dice. Cioè, ecco, come se lo immagina lei, le mutande, anche quelle sono firmate, secondo lei, per carità. Adesso non posso immaginare, perché, insomma, non posso immaginare, sotto, insomma, è abbastanza una cosa intima. Ma boxer o slip? Ma adesso entri nel merito. Renzi? Sì, secondo Renzi? Sì, Renzi. Sì. Renzi si alterna, diciamo. Ecco. Si alterna. Però mentre firmato. Sono Filippi Lana. Firmato, secondo lei, firmato. Tutto molto, sì, molto firmato. Sì. Comunque, sì, se hanno qualcosa in comune, questo hanno in comune la passione per la moda. Sono un po'... Sì, sì, certo. Ma è molto dimagrito il signor Renzi, per questa ci tiene. Certo, la differenza d'immagine tra i due c'è, lei è portavoce della campagna della primaria di Bersani. Cosa bisogna fare per svecchiare un po' questo signor Bersani? Ci stiamo provando, ci stiamo mettendo su una campagna. Deve sorridere di più. Comunque bisogna un po' svecchiarlo, no? O sì, no? Assolutamente. Zanzare di casa mia. Bene, siamo qui 800 24 00 24. Ti faccio ascoltare una cosa però, Parenzo, te la devo far ascoltare per forza, perché mi prude un po'. Sì. Beh, no, mi prude no, in realtà no, mi ha fatto molto ridere perché il personaggio lo conosciamo. Marco Pannella che impazzisce a Radio Radicale. Sono in diretta. Cioè, a un certo punto si arrabbia perché non lo richiamano, una cosa esilarante. Mandiamone uno qualsiasi, sono in diretta, che cazzo. Sentiamo. Bene, ridiamo la parola a Marco Pannella che voleva intervenire. Ma guarda, sentite, ridiamo la parola a Marco Pannella. Io volevo semplicemente dire cucù, scusate se vi ho disturbati. Io non so chi è il moderatore oggi, se c'è, tutti qua, perdonatemi, sono davvero insopportabile. Poi a un certo punto attacca, dice, a Tonino, rivolto a Di Pietro, perché interrompe la diretta dell'Italia dei Valori, sei un buciardo. Ma perché? Perché è impazzito, perché? La cruda verità, se mi guardi ti giuro mi comprendi. Quindi buon lavoro, Tonì, buciardo. Te l'ho detto, quando tu hai detto non abbiamo escluso nessuno. E va bene, siamo con Alessandra Moretti, 39 anni, portavoce della campagna delle primarie di Bersani, vice sindaco di Vicenza, Partito Democratico, ho detto tutto. Ma mi dica la verità, tu lo sai che è una bella ragazza, signora Moretti? Sì. Ho visto, non l'ho mai potuta conoscere di persona. No, in televisione conosco... l'avrei vista qualche volta, sì, no? Sì, no, certo, la conosco bene, sì. Anche lei pare che sia una scoperta di Ballarò, o sbaglio, signora Moretti? No. Di Agorà, no. Di chi? Lilli Gruber. Ah, Lilli Gruber, mettiamo le cose in chiaro. Dunque, lei con la Polverini già c'è questa differenza. Perché Una donna mi ha scoperto, non a caso le donne ci hanno fiuto. La scoperta è stata di Lilli Gruber, non di Ball, non del signor Floris. Una donna molto bella, capace, brava. Vabbè, adesso questo non lo sai, non abiti a Vicenza, non puoi sapere nulla. Per no, cui non dire l'ho vista in televisione, ho visto ho letto delle interviste, ho visto le sue foto su Google, che invito andatela a cercare tutti, cari amici. Comunque, mi dica la verità, signor Moretti, avvocato Moretti, mi scusi, ma la bellezza, me lo dica però sinceramente, conta, la bellezza dai. Conta, su, è inutile, non diciamo stupidaggini, la bellezza conta. Ma certo che conta, aiuta molto. Sono stata messa lì anche perché sono bella. No. Sì. Ma non c'è niente di male. Che aiuta e probabilmente insomma il sorriso, insomma il modo di porsi, insomma fa comunicazione, no? Avvocato, diciamola tutta. Se ad accompagnare Bersani ci fossero tre carampane con catetere e denti gialli, beh, non sarebbe proprio una segnale di rinnovamento. Si può dire. Fatto benissimo a scegliere me, ha fatto benissimo. Vabbè, appunto, diciamo la verità, la bellezza ha contato anche in questa scelta. Bella. Anche perché è bella, non è strano. Si può dire? Si può dire. Con laicità? No? Lo chiederete loro, a lui, ma insomma... Vabbè, lei... tutto aiuta, dai. Tutto aiuta, su, tutto aiuta. Cioè, nel senso che, diciamo la verità, tra lei e Rosy Bindi, insomma, no? Adesso no, ma Rosy c'ha esperienza. Sì. Ma si deve ricandidare secondo lei? Insomma, si deve ricandidare? Due stili diversi. Si deve ricandidare secondo lei? Ma insomma, intanto ma io penso che sì, che si ricandiderà di ma sicuro. Ma come lei ha detto che c'ho tre mandati e basta? Io ho detto no, non lo dico io, lo dice lo statuto. Le regole dicono che dopo tre mandati in teoria bisognerebbe lasciare lo spazio, però ci sono le deroghe perché noi siamo straordinari, no? Per cui ci sono delle deroghe. Ma lei è d'accordo invece... con queste deroghe o no? No. Ma insomma, in alcuni casi diremo che le deroghe tutelano e potrebbero preservare il merito, la competenza, l'esperienza. Ma la Bindi chi è che deve salvarsi? La Bindi e Bersani? No, ma Bersani non ha fatto, Bersani non ha bisogno delle deroghe. Beh, come no, tre legislature ha fatto, lei, no, lei è inciampata su questo, non lo sapeva nemmeno. Ma no, dica. Allora guardate su questo. Non lo sapeva nemmeno, le legislature di Bersani non le sapeva. Ne ha fatte due complete. Ma no, ma che c'è tra due complete? È uguale, no, è uguale. 2001, no, 2006 e 2008 sono tre, c'è poco da fare. Ma no, ma perché noi dobbiamo considerare che nell'ultima Assemblea Nazionale è stata introdotta questa nuova, questa interpretazione, perché bisogna interpretare tutto, no? Ma no, l'interpretazione, ma ancora con queste cose. Anni. Dai, su. Non c'è durata di 15 anni. Ma la gente non capisce quando comincia a parlare di interpretazione dello statuto. Comunque lei dice la Bindi si può ricandidare. Allora cominciamo già con le deroghe. La Bindi, poi Bersani pure? Sì. Ma no, ma direi che sarà la direzione nazionale che di fronte a D'Alema? Una richiesta di deroga. D'Alema, secondo lei? D'Alema, ma sinceramente... D'Alema, dai, D'Alema è D'Alema. Pure D'Alema. Il migliore, il più bravo, Beltroni? Il più simpatico, Beltroni? Il più avuto. Beltroni? Ma Beltroni non lo conosco molto. Beh, ma si deve ricandidare, però, o no, secondo lei? Però poi non sono io, sarà la direzione Vabbè, nazionale. Ma secondo lei la sua sensazione qual è? Cioè, se fosse, decidesse ma lei. Ma questi si ricandideranno tutti. Si ricandideranno tutti, diciamo. Ma poi non sono. Però voi, no? Ma anche perché sennò citarre cosa degli fare? Altri, bisognerebbe citarne degli altri, perché ci sono dei deputati che hanno fatto addirittura oltre che 3-4, non ne fate anche 5. Sì, capito? Vabbè, ma quello è chiaro che se li ricandidate vi tirano le pietre addosso, se vi ricandidate quelli con 5 cose. Magari per Beltroni le pietre non ve le tirano, però per altri sì. Scusi un attimo, ma a proposito, siccome lei era inciampata su questa cosa di Bersani, perché non si ricordava quante legislature aveva fatto, allora mi dica, no, ma io ho preparato un piccolo test su Bersani. Lei è portavoce della campagna di Bersani. Allora, quante volte è stato ministro Bersani? Quante volte è stato? Ministro. Allora, Bersani è stato ministro. Non consulti internet, eh? No. Allora, praticamente, lui è stato ministro nel... Ma subito, al volo! No, no, rispondere. Ministro dell'industria... No, aspetti un attimo. 96-99 la prima volta, poi, mi pare, no? Sì. Mi pare, sì. Con Prodi. Poi? E poi nel 2001... Sì. Ministro dei trasporti, ha cambiato delega, trasporti e navigazione. Sì, poi? E basta. Ma no, tre volte è stato ministro. Ma lei fa la portavoce della campagna. Sì, tre volte è stato ministro, non due. Lo diciamo noi, industria, trasporti, ma anche sviluppo economico è stato. Tre volte, signora Moretti. Le famose lenzuolate, no? Ma su... Ma qua... Dal 2006 al 2008. Vabbè, ha sbagliato. Sì, tre volte. Tre sviluppo economico, c'ha ragione. Vero? Ma che anno è nato Bersani? Ma non lo so, cioè ma come non lo sa, ma dai, su, ma non è possibile. Ma no, c'è 60 anni, nel 51. Ma dove è nato? A Bettola, in provincia di Piacenza. Adesso ha davanti il curriculum. E cosa fa il padre adesso Bersani? Ha davanti il curriculum. Il meccanico, questo lo sa benissimo, perché lui sa benissimo cosa significa rottamare. Il benzinaio, dice Parenzo, il benzinaio. Faceva. No, ma lei è un disastro. Non faceva il meccanico? Lei è un disastro. Benzinaio. Lei è un disastro assoluto. Però... Scusate, ma è e cosa fa la moglie di Bersani? La moglie di Bersani che fa? È la farmacista, si chiama Daniela. E c'ha una ragazza, una figlia che si chiama Margherita, come la mia Margherita. Senta, avvocato Moretti, ma lei sfiderebbe mai come ha fatto la Minetti? No, ma... No. Però sarebbe in grado. No, non c'ho il fisico io. No? No, non c'ho il fisico della Minetti. La Minetti è bellissima, la Minetti deve fare solo la modella, dai. Solo la modella, ah, certo. È molto bella, la trova molto bella. È una bella ragazza, sì. È un po' rifatta, ma è bella. Ma lei si ritoccherebbe, non c'è niente di male a ritoccarsi un po'. No, non c'è niente di male, ma io non ne ho bisogno. Ah, ma lo rifarebbe, però lo farebbe se ci fosse bisogno, non c'è niente di scandaloso. Sinistra moderna, la sinistra moderna. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Io non voglio dire, caro Parenzo, che sono tutti uguali, Non lo voglio dire, che sono tutti uguali, aspetta, però, i soldi che vanno ai gruppi nel Lazio, ai gruppi del Consiglio regionale del Lazio, l'aumento della dotazione dei quattrini è passata dal 2010 al 2011 da 1 milione a 14 milioni, con il consenso di bravo. con il consenso di tutti. Poi, bravo, magari nel PDL l'avranno spesi in un certo modo, nel Partito Democratico l'hanno spesi per attività, certo, politica, non lo so, verificheremo. Fino adesso non è emerso nulla nei confronti del Partito Democratico, però i soldi se li sono presi tutti e non nessuno ha fiatato, nessuno ha fiatato. Il signor Esterino Montino, sconosciuto ai più, uno che è il signore delle tessere del Partito Democratico nel Lazio, perché poi bisognerebbe parlare pure di che cosa sono le preferenze, cosa producono le preferenze, eh? Perché Fiorito è un prodotto delle preferenze, signor Fiorito. Allora, il signor Esterino Montino, che è il capo, ripeto, sconosciuto e più, ma è un signor politico da decine di migliaia di voti, il signor Esterino Montino dice in un'intervista a Repubblica, in un'intervista a Repubblica dei giorni scorsi, dice che sì, abbiamo sbagliato perché i soldi ce li siamo presi anche noi, non abbiamo detto nulla, non ci siamo opposti. Questo dice. Certo. Ma dove eravate? Dove eravate? Perché avete votato anche voi? Punto di domanda doppio. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Duro scontro sulla Fiat della Valle, incapaci, ci prendete in giro, Marchione, lui fa borse, noi vetture, non rompa, domani l'incontro governo sindacati. Polverini verso le dimissioni, sarebbe stata raggiunta la maggioranza dei consiglieri pronti a lasciare, Casini ospite del TG3. Interrogato Viterbo Franco Fiorito su alcune fatture gonfiate, se il consiglio regionale cade io mi ricandido, dice l'ex capogruppo del PDL. Monti, sulle norme anticorruzione c'è un'inerzia non scusabile da parte di alcuni settori politici. Il prossimo sarà un anno di ripresa. La corruzione provoca la rabbia degli onesti. Il cardinal Bagnasco contro il malaffare in politica. Sulle unioni civili parla di conseguenze nefaste. Scontri nella fabbrica cinese che assembla l'iPhone. Produzione bloccata per almeno 24 ore. Operai in rivolta contro gli orari di lavoro. Parere negativo del comitato dei servizi per il nuovo sito che dovrebbe sostituire la discarica romana di Malagrotta e il commissario Sottile da gennaio. Siamo messi male. Beh, beh, beh, caro Parenzo, c'è un'interrogazione parlamentare fondamentale a firma di Carlo Giovanardi, senatore del PDL. Tu lo sai su quale argomento? Beh, immagino potrebbe essere qualcosa legato... No, no, non lo sai, non lo puoi sapere, non lo puoi sapere. Allora, primo, perché non ti sei informato come al solito. Secondo, perché non lo puoi nemmeno immaginare, non lo puoi nemmeno lontanamente immaginare. Interrogazione è sulle giraffe e sui circhi. Voglio esprimere affettuosa vicinanza ai lavoratori del circo e alle loro famiglie, circa 100 persone che rischiano di finire sul lastrico, vittime di un fondamentalismo ideologico che antepone gli animali agli uomini e che molto probabilmente è anche la causa dell'inspiegabile liberazione della giraffa. Cioè, riepilogo per quelli che stanno impazzendo a capire come mai un senatore della Repubblica presenta un'interrogazione parlamentare sulle giraffe e sui circhi. Signor Giovanardi, è morta una giraffa, vogliono chiudere il circo, per carità, massimo rispetto, ma chi se ne frega, cosa c'entra con il Senato tutto questo? No, beh, meglio che si occupi di giraffe piuttosto che di pipì, di droghe leggere, droghe pesanti. Fiorito, questo. Le ultime da Fiorito, dice che si ricandiderà se si scioglierà il consiglio regionale, dice... La vacanza. Ho fatto una vacanza fuori dalle righe, 30.000 euro, perché deluso dalle elezioni. Cioè, uno è deluso e fa una vacanza da 30.000 euro, facendosi anticipare i soldi dal gruppo, se mai li avesse restituiti. Lei pensava di avere uno stile di vita da babbo? Ma scusi, lei poi ha trovato altre vacanze come quella? Che cosa? Lei ha trovato altre vacanze come quella? Quindi, altre spese? È stata la botta di vita. È stata la prima vacanza dopo le elezioni, io ritenevo di farla fuori dalle righe perché ero talmente stanco e deluso da quelle elezioni che volevo riposarmi in un posto bello e non me ne fregava niente di nessuno perché ero talmente deluso che volevo stare in un posto bello. Le chiedo una cosa. Costoso. Eccoci qua, 800-24-0024, Alessandra Moretti, portavoce della campagna di Bersani, vice sindaco di Vicenza, Partito Democratico. Senta, ma mi dica la verità, pure il Partito Democratico ha preso i soldi, per carità, poi li avranno gestiti bene nel Lazio, eh? Hanno sbagliato, me lo dica. Sì, hanno sbagliato e infatti si dimettono, no? Beh sì, si dimettono, sì. Beh, certo, però è un po' paracula come cosa, cioè dimettersi adesso è un po' una furbata. Infatti sono assolutamente d'accordo con voi, la vigilanza deve essere, il livello di vigilanza deve essere molto alto. Cioè se non usciva la storia di Fiorito, questi del Partito Democratico, per carità, poi li avranno spesi bene i soldi, non lo possiamo sapere, li avranno spesi per l'attività politica, ma sono comunque tanti questi soldi, non hanno fiatato. A maggior ragione devono dimettersi, anche i nostri a maggior ragione devono dimettersi, devono l'hanno già dire fatto. Con forza appunto che il finanziamento pubblico ai partiti va ridotto e semmai dobbiamo riparlare di rimborsi elettorali. Ecco. Senta, ma lei conosce i titoli, due titoli dei libri di Veltroni? Mi dica la verità, titoli. No, non li conosco, i libri di Veltroni non li leggo, dai, ma io faccio la vice sin, faccio l'assessore all'istruzione e alle politiche giovanili, lavoro 8-10 ore al giorno, figurate se mi metto a leggere i libri di Veltroni, voglio dire. Renzi ha detto che è un bravo romanziere, molto più bravo come romanziere. Ma lui ha più tempo, Renzi ha più tempo di me evidentemente, ma e scrive anche. Ma Renzi. Ma il libro di Bersani l'ha letto almeno? Il libro di Bersani? Così? Il libro di Bersani l'ha letto? Perché Bersani ha scritto un libro adesso. Ha scritto un libro, sì, ma l'ho letto a tratti, guardi, non l'ho letto neanche quello, per par condicio. Come per par condicio? Ma non ha scritto nessun libro. Senta, ma una... Chi che l'ha scritto il libro? Sì, l'ha scritto, assolutamente. Comunque, al test su Bersani lei è caduta rovinosamente, questo bisogna dirlo. Al test su Bersani, lei mi è caduta, lei mi è caduta. Ha ragione, sono caduta su una buccia di banana. Succede, non c'è niente di strano. Ma mi è simpatica anche per questo, perché non è che adesso uno deve sapere esattamente quante volte Bersani è stato ministro, chi se ne frega alla fine, no? Ma come è laureato Bersani? Ai giovani capita anche di sbagliare. Sì, che dici, che cosa è laureato? Perché è laureato? Filosofia, è un filosofo. Filosofia, vabbè, questo l'ho visto adesso su internet. Su. No. Vabbè, comunque io sono in stazione. Va bene, d'accordo. No, però c'è una cosa interessante che va detta, caro Parenzo, a proposito delle adozioni gay. Io voglio sapere se la signora Moretti è d'accordo con le adozioni omosessuali. Questo è importante. Con le, scusate? Adozioni per le coppie gay. Ma guardi, io faccio l'avvocato e mi occupo di diritto di famiglia, per cui vedo molte famiglie sfasciate e senza... L'amore verso i figli non è che è determinato maggiormente da una coppia eterosessuale piuttosto da quella omosessuale. Brava, no? Dunque è d'accordo, è d'accordo. Ma sì, si può aprire una discussione seria su questo, prima però bisogna dare il riconoscimento alle unioni civili. Vabbè, quello sì, però le adozioni, oggi l'ha detto anche Pisapia, anzi ieri l'ha detto Pisapia. Ma io, guardi, Pisapia è un avvocato come me, quindi può ben... parlare, perché vede che già ci sono delle famiglie dove sono cresciuti bambini diciamo da omosessuali, da coppie omosessuali. Non c'è niente di, voglio dire, i bambini non perdono nulla se sono cresciuti con l'affetto, no? A prescindere dal sesso. A prescindere dal sesso. Beh, insomma, Parenzo, ma si fa breccia anche nel Partito Democratico questa idea, per carità, non c'è paragone con quello che accade nel PDL, però. Senta, ma io voglio capire, a questo proposito, ma la Bindi ha detto che ha rinunciato al sesso, che è stato molto pesante rinunciare al sesso, ma secondo lei una persona che dice di rinunciare al sesso può parlare? Chi è che l'ha detto? Scusi, sono in stazione. Per cui la male. Signora Bindi, la signora Bindi. È una brutta cosa rinunciare al sesso, secondo me. È brutta, eh? Peccato, sì, dai. È un peccato, ma si può parlare di coppie, di rapporti se uno rinuncia al sesso? Se uno dice che ha rinunciato al sesso non ci capisce niente di queste cose, o sbaglio? Ma no, uno può anche avere delle relazioni così, platoniche, filosofiche, oppure si può anche essersi stufata, magari, no? Però... Ne ha fatto troppo, che ne so. Ma non credo. Comunque lei non rinuncerebbe mai al sesso, diciamo. Assolutamente mai. Scherziamo? No, che ne so. Parenzo, vuoi fare una delle tue solite domande hot? Una delle solite domande hot che fai tu? Credo che la questione riguardi l'interesse di milioni di italiani, di potenziali elettori del PD, sapere quante volte la portavoce della... No, è ogni volta questa storia. Buono un attimo. Mamma mia. Ogni volta con questo. Devi sempre chiedere a tutti quante volte fanno l'amore. Ma che bisogna ti frega a te? Bisogna mettere, come diceva il grande Freccio, frammenti in abbondanza, Davide, in abbondanza. Come? Cioè, più di una volta a settimana? Se una volta a settimana la persona è impegnata, vice sindaco, eccetera. Anni, quante volte, cioè, ma non rompere le scatole. Quelle cose lì si trova sempre il tempo. Si trova sempre il tempo. Cioè, anche ogni giorno, si può, in periodi anche ogni giorno. Beh, anche ogni giorno, in anche alcuni periodi giorno. In vacanza, può essere. Anche ogni giorno, roba incredibile. Quando siete rilassati. Otto Moretti, cioè, vabbè, comunque. No, ho detto, guardate che io ho aderito alla corrente degli Erodem, sono stata una delle prime. Che cos'è gli Erodem? Cos'è gli Erodem? Non sapete che cos'è la corrente degli Erodem, ragazzi? No, ci è sfuggito, che cos'è, signora Moretti? Ma vi ho colto in difetto. Eh sì, è vero. Allora, è quella corrente interna al Partito Democratico che abbraccerà tutte le altre. Quindi è la corrente che abbraccerà tutte le altre. E qual è? Vogliamoci bene, abbracciamoci e facciamo l'amore. No, scusi, no. Erodem ha un altro significato a caso mio, non è solo abbracciarsi. Cioè esiste, no, adesso lei ci sta prendendo in giro, esiste una corrente che si chiama Erodem, no? Ma assolutamente, su internet, erotismo democratico, erotismo democratico, adesso la sento poco. Erotismo, che vuol dire erotismo democratico? Quelli che lo fanno spesso, quelli che sono un po' libertini. Lei è libertina, non ho capito. Non si sente più nulla. Proprio sul più bello è caduta la telefonata. Borsa, torniamo subito. 800 24 00 24. Esiste sta corrente o no? Vogliamo sentire un po' di Marchionne versus Della Valle, nuovo capitolo, Ecco, su questo, caro Cruciani, a parte che tra poco c'è un ospite grandioso qui al mio fianco che ti passerò, non voglio tenertelo in caldo, su questo voglio dire parole definitive, Cruciani. Sì, dille, tanto dici un sacco di cazzate. No, vabbè, le mie saranno cazzate, ma... Questo parole definitive, Marchionne, Della Valle te le ha cantate, parole definitive, caro Marchionne. Ma quando mai? Marchionne gli ha risposto, scusi signor Della Valle, ma lei fa automobili perché mi vuole dettare le linee guida della mia azienda, oppure fa le scarpe? Mistificatore. Oppure sei, fa le scarpe. Perché un grande industriale dice, e non me ne frega che si chiami Della Valle, non ho nessun interesse. Adesso sono diventati tutti professori di automobili. Un capitano d'azienda dice si valuta il prodotto, la ragioniamo nel merito. Della Valle ha fatto una valutazione sul prodotto, dice evidentemente quel prodotto non funziona, cioè non vende le macchinine. Perché non vende le macchinine? Bravo. Punto di domanda, perché non le vende le macchinine? Fammi sentire Della Valle. Statua del cavallo di Zabov. Perché il mercato non li vuole quando noi sopravviviamo solo perché siamo in continua evoluzione con i prodotti nuovi, ma diciamo cose di una banalità tale che l'indisponenza viene dal fatto che ci si vuole prendere in giro anche con argomenti, voglio dire, neanche tanto convincenti. Gerani, mettiamo gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. E il futuro dell'opera della Fiat non è più corrispondente a quello che questi signori vogliono fare nel paese. Questa è una che ha deciso di andarsene un pezzo, meno due anni fa. Oggi è successo solo che li abbiamo presi con la mano della marmellata mentre se ne volevano andare. Li abbiamo presi con la mano della marmellata mentre se ne volevano andare. Li abbiamo presi chi? Della Valle, chi? Li abbiamo presi chi? Ma chi? Nel merito. Ma stai zitto. Ma tu sei politicamente corretto, proprio. Sei l'emblema e proprio il. Sei. Parenzo politicamente corretto fatto in persona. Cioè, siccome Marchionne adesso è il nemico dei tuoi amici, adesso tu devi andare, devi sparare a zero contro Marchionne, che è diventato uno sport nazionale. Sappiamo quello che vuoi dire. In passato ho detto che il piano Italia. Ma non me ne frega niente di quello che hai detto in passato. Non sei mica Churchill. Fammi sentire. Poi dopo ha sbagliato tutto e ha tradito gli impegni che aveva preso. Ma ha tradito gli impegni, ma fa l'imprenditore. Ma smettila, su. Fammi sentire Marchionne su Della Valle, su numero uno. Fino a quando parla gente che fa borsa e che esprime opinioni sui volumi delle vetture, mezzo a reso. Gli dica al suo amico della Valle. No, ma non è mio amico. Gli dica al suo amico della Valle che quando investi un anno in ricerca e sviluppo e investimenti non ci facciamo nemmeno una parte di un parafango. Si è parlato di sgravi. Smetta di rompere le scatole. Beh, siamo al top. Voglio mettere questa cosa di continuo. Beh, con quello che lui investe, così non ci facciamo nemmeno i paracadute. C'è un ospite. Dammi un ospite, su, ma parla. Passo subito l'ospite. Ma parlaci tu, chi è questo ospite? No, chi è? Stai calmo, devi riconoscere dalla voce. Avanti. È un ospite molto importante. Molto importante, avanti. Pronto? Sì, chi è? Buonasera. Buonasera, al formaggiaio Oreste, sto qua con Oreste, signor Parenzo. Ma che è andato con Parenzo lì alla 7? No, anzi no, lui è venuto da lei, e lui è venuto da lei. Ancora a mangiare formaggi, ancora a spendere. Sì, beve anche champagne stasera, comunque. Se... Ah, compra anche lo champagne questa sera? Lo sta bevendo, quindi. Cioè lo sta bevendo e state passeggiando a champagne. Facendo... Ah. No, quattro... Io no, eh. No, lui sta passeggiando a champagne. Esatto. Operai dell'Alcoa, operai vero, che siete in crisi. Ascoltate queste parole. Il vostro difensore d'ufficio, David Parenzo, sta passeggiando a champagne questa sera. Esatto, sta passeggiando a champagne, benissimo. Dovrebbe Sposetti, che l'ha difesi molto bene, ha visto? Ma chi? L'altra sera, l'altra volta c'era Sposetti ospite, sì. E mi ha detto che io andavo... ero cresciuto a drive-in all'Isola dei Famosi. Sì, sì. Io dico, io ce n'ho tanta di gente che difende gli operai, però se la mattina poi 8:30 non vanno a lavorare, sì, gli arriva un bonifico in banca da 15.000 euro. Bravo. Dice, c'è qualcuno che li difende alla fine, poi molto bene, perché tanto è vero, 2 settimane fa, se non ricordo male, sì, sono venuti a Roma a fare shopping, per quanto li ha difesi bene gli operai dell'Alcoa. Sì, sono rimasti molto contenti. Bravo, grazie Oreste, mi ripassi per Antonio da Prato, buonasera Antonio. Sì, buonasera. Dica. Parenzo, tu naturalmente sei in giro per Roma, naturalmente, non è che stai fermi in un posto, sei in giro per Roma come al solito. Antonio da Prato, buonasera. No, ecco signora, buonasera. No, non me ne frega niente, voglio sentire Antonio da Prato, non la signora che è accanto a te. Antonio, dica. Era tanto non vi sentivo, bentornati. No, bentornato lei, noi siamo sempre qui, eh. Cioè, abbia pazienza. Dicevo alla vostra... Sì, diceva? Gentile... Telefonista, centralinista, sì. Che per caso si chiama Nicole, anche lei. Nicole. Ah, Nicole. Sì. Che avrei volentieri sostenuto Renzi, ma dopo l'intervento della Minetti ho cambiato idea. Ma che gliene frega a lei di chi sostiene la Minetti? Non si vuole sentire accostato alla Minetti? Pure lei cade, no, in questo tranello, in questo trucco. È il doppio bacio della morte. Ma su, dai! È il doppio bacio della morte, perché prima gliel'ha dato Berlusconi, sì, e ora gliel'ha dato anche la Minetti. Ma gliel'ha dato anche Dell'Utri, gliel'ha dato anche la De Girolamo, gliel'ha dato anche Galan. È il prezzo che deve pagare il nostro caro sindaco, sì, per essere andato a cena da Berlusconi alla Chetichella. Ma queste sono stupidaggini, Antonio. Il punto fondamentale è un altro, è che Renzi è l'unico candidato del centrosinistra che può prendere voti anche nel centrodestra. Questa è la mia idea. Sarà un limite per qualcuno, secondo me è un vantaggio. Giovanni da Biella. Buonasera. Buonasera. Giovanni, vada. Buonasera. Senta, io volevo riprendere un po' il discorso della Polverini, sì, la quale dice, siamo arrivati all'accordo, verranno ridotte le contribuzioni, eccetera, e quindi non mi dimetto. Non si deve da notizie dimettere, che si hanno, da notizie che stanno filtrando da Twitter, da diverse fonti, pare che si sia dimessa. Sembra che si sia dimessa, fra poco naturalmente... Potremmo anche avere l'ufficialità, Ma perché è così complicato dimettersi dalla Regione? Sì, stai tranquillo, Giovanni da Biella. No, io sono tranquillissimo, però sono stati commessi dei reati gravi. Come lo stesso Fiorito non può dire restituire. Un attimo solo. Ci stiamo chiamando? Non ti preoccupare. Allora io intanto prenderei questo di capra. Vuoi anche il formaggio di capra? Permesso oppure no? Sì, sì, quanto costa il formaggio di capra? Formaggio di capra, questo camembert quant'è? 10 euro. È mucca però. Mucca no, capra voglio. Capra, formaggio capra di capra. Champagne l'hai preso? Quello lì, grazie. No, lo so, me l'ha offerto adesso. Che l'ha offerto? È il difensore degli operai, gli operai delle coa. Voi che siete all'ascolto, no, avete capito chi è il vostro difensore? Pasteggia champagne, formaggi prelibati, eccetera, eccetera. Toglietemi questa telefonata, eravamo con Giovanni da Biella. Proprio sciocco nell'animo. Perfetto. Giovanni, allora? Allora volevo continuare il discorso. Fiorito, sì, dice sono pronto a restituire il denaro, sì, ma perché quando un ladro ruba e restituisce la refurtiva ha estinto il reato? Ma sì, no, ho capito, ma non dice che vuole estinguere il reato con questo. Era un'idea venuta in mente soprattutto all'avvocato professore Carlo Dormina, il quale dice... L'avvocato professore Carlo Dormina, che si arrabbia con lei e con tutto il resto, ho seguito la trasmissione, come faccio per fortuna. Vabbè, allora... Così mi diverto anche. Ma siamo alla follia, dobbiamo smettere con queste prese in giro veramente. Gli elettori devono imparare a scegliere, devono imparare a votare e a fare, sì, uso di uno strumento che è l'unico strumento di... Ma no, ma che cosa strana. Giovanni, la ringrazio. No. Anna Maria da Roma, buonasera. Buonasera. Dica, sulla ha chiamato lei. Polverini. Sì. Sulla questione della Polverini. Sì. Siamo alle dimissioni, ed è quello che sembra. Siamo arrivati al momento delle dimissioni. Meno male, perché io allora alziamo i calici. Lunedì mi trovavo alla Ma tu alzi il calice perché alziamo sei militante. Tu sei militante, io non sono militante. Tu alzi i calici che sei sei militante. Io non essendo militante non alzo nessun calice. Scusi? Ecco, credo che ci sia poco da brindare, sì, non è una questione di alzare i calici. Ma è quello che brinda, è Parenzo che è militante che brilla, che brinda. Che dopo due anni o poco più un consiglio regionale si dimette tutto per la cosa orribile che è stata fatta, perché è veramente una cosa ignobile. Io ho vissuto alla regione Lazio, ero il numero 39, immagini quanti eravamo, ho visto la regione nascere, crescere e deperire. Quello che c'è oggi della regione è veramente rivoltante. Vabbè, Anna Maria, questo però lo faccio un esempio a Paradiso, come si buttano i soldi. Mi sento la Fisana, c'è stava un centro stampa che lavorava benissimo, faceva tutte le cose che servivano, faceva pure di più. È stato tolto il lavoro a quello che poraccio ci è andato pure in depressione per darlo fuori a 2 milioni di euro. Ha capito come funzionano le cose? Va bene, Anna Maria, grazie. Io mi auguro che si sia diversa e che non si ripresenti più nessuno di quelli che sono stati. Vedremo. Intanto il signor Batman ha detto che si ripresenterà. Sono sceso in strada per raccontarvi questa Roma che attende con passione e fiducia le dimissioni della Ma non gliene frega niente a nessuno. Buonasera, di che stai parlando? Ha sentito che si è dimessa la Polverini? Sì. È contenta? Sì. Ecco, una testimonianza raccolta proprio ma così. Ma questi tuoi sondaggi ridicoli non hanno nessun senso, non hanno alcun senso. Non è che a Roma la gente aspetta le dimissioni della Polverini o no? Le masse si stanno, facciamo un po' come il cinegiornale. Ma tu fai il militante, come al solito. Ma fai il militante. La città festeggia. Hai dimostrato di essere un militante. Quando hai detto alziamo i calici per brindare, non c'è niente da brindare. Tutto il consiglio regionale, certo. Va bene. Certamente PD, IDV, VBB, UDC, chi, Cococò, tutti si rivota perché il consiglio di presidenza, come tu hai questa volta correttamente ricordato, ha votato all'unanimità quei fondi, quindi se ne vanno tutti quanti a casa. Io per questo alzo i calici, non per sinistra o grazie, è arrivata la capra intanto, grazie. Bene, non intanto aspetta un attimo, abbiamo con noi il presidente dei senatori del PDL, Maurizio Gasparri, bentornato alla Zanzara, buonasera. Buonasera e bentrovati. Come sta? Come sta? È una giornata positiva, una giornata molto negativa per chi ama la politica trasparente. È una giornata triste, molto bella. Non so se adesso ci saranno, come tutti prevedono, queste elezioni. Comunque c'è una vicenda inaccettabile in ogni caso. È una giornata meravigliosa, Gasparri, perché la politica ritrova dignità. Gasparri, oggi. La Lei politica... era contrario alla dimissione della Polverini, però, Gasparri, scusi. Guardi, la Polverini ha in consiglio presentato un pacchetto di proposte molto importanti che adesso con le sue probabili dimissioni solo in parte sono state approvate, altre poi restano affidate al futuro, quindi forse completare quell'opera di provoca dei danni, dice lei, di carichi, di posti, di fondi, di assessori e anche di consiglieri, perché non credo che con le dimissioni adesso immediate della Polverini ad esempio passino da 70 a 50 i consiglieri regionali, e quindi per esempio sarebbe stato meglio fare questo. Ma ha fatto di testa sua? La riduzione dei seggi che adesso non credo si farà. Lei dice che sta facendo di testa sua, cioè lei continua a essere contrario e lo fa per ambizione personale, perché questa è una delle No. Credo che Renata Polverini prenda atto che da un lato c'è chi la incoraggia a realizzare queste iniziative di bonifica, di riduzione di seggi, di fondi. Sì. Dall'altro, se nel consiglio prevale la volontà di molti consiglieri di dimettersi per favorire le elezioni, credo ne prenda atto. E dopodiché potrebbe essere che Renata Polverini si dimette senza essere stata nemmeno indagata. Ci sono anche a sinistra, non solo nel centrodestra, in altre regioni, presidenti indagati, quello dell'Emilia Romagna accusato di avere finanziato una cooperativa che fa capo al fratello, c'è un rinvio a giudizio per Vendola per la sanità, e quindi voglio dire, Renata si dimetterebbe senza che ci sia nemmeno un'accusa nei suoi confronti. Ma questo, come lei sa, la politica non è fatta solamente di questi. Ma infatti io sono molto indignato per quanto è avvenuto. No, no, questo l'ho capito, però in modo diverso la politica. Perciò dicevo una giornata triste, ho detto, per chi ama una politica trasparente, sì, e sana. Però scusi Gasparri, lei insomma, il PDL anche nel Lazio lo conosce molto bene. Com'è possibile che dall'alto della sua esperienza, anni e anni di politica, caro Parenzo, Gasparri, a lei non è mai venuto in mente che questi soldi, lei non sapeva nulla dell'erogazione di questi soldi, di come venivano utilizzati? Anche lei, insomma, lei è una persona esperta in politica, sa come funziona. Lei non sapeva nulla. Io dell'aumento di questi fondi che c'è stato da un milione a 14, consistenti, approvato all'unanimità, sì, quindi non solo dal PDL, dai vari gruppi, ma anche dalla sinistra. Questo l'abbiamo detto, sì. Non sapevo assolutamente nulla, come non sapeva nulla neanche l'informazione alla stampa, se no l'avrebbe scritto. Quindi questa vicenda evidentemente l'hanno gestita con furbizia senza farla emergere. Beh, almeno lei doveva saperlo, però. Dell'uso, anche perché poi sull'uso di questi fondi, la cosa inaccettabile è la moltiplicazione dei fondi, da un milione a 14 milioni. Sì. Poi c'è il problema dell'uso, e lì bisogna capire. E vabbè, quello vediamo, sì. Usi illegali, la magistratura ha visto anche oggi, è indagata, sì, a Viterbo, altrove, e invece se uno ha fatto una manifestazione o ha fatto una cosa che era consentito dalle regole, è una cosa diversa. Senta, ma la valorizzazione dei fondi, sì, francamente, non ero l'unico a essere disinformato. Voi fate... no, ma anche noi, certo, anche noi. Sulla stampa si legge di tutto, tutte le vite pubbliche e private di chi fa politica giustamente vengono, come dire, scarnificate, una sorta, sì, di tac quotidiana. Io questa vicenda non l'avevo mai sentita. Parenzo, che dici? No, dico a Gasparri che al di là della... Che c'è? Aspetta che c'è... Ciao, fai una domanda, sei contento che la polvere è un cittadino che si è avvicinato spontaneamente a me abbracciandomi? Questo è il famoso Oreste. E questo è Oreste, esatto. Sei felice che si è dimessa la Polverini oggi? Sono tristissimo. Come tristissimo? Lei deve dire che è felice, sono i sondaggi. Vabbè, sono felicissimo. Ecco, hai sentito? No, il commento. Ma fagli la domanda vera, seria, non la domanda alla Parenzo, dai. È felice o no che si è dimesso la Polverini, tutto il consiglio regionale va a casa? Vediamo, aspettiamo. In linea di massima sarei contento, sì. Beh, no. Vabbè, comunque, cittadino riflessivo, senatore Gasparri, ma potrebbe essere ricandidata la Polverini oppure un ciclo si è chiuso? Mi dica la verità. La mia opinione? La sua opinione, no? Difficile. No, è troppo presto per valutarlo, credo che sarà Renata a doverlo decidere. Lei non ha nessuna accusa, non è indagata. La vicenda comunque è talmente traumatica che... Sarebbe meglio candidare qualcun altro, adesso non so... No, guardi, no, non mi faccia dire queste cose, perché io di Renata ho un giudizio positivo, probabilmente anche la Giunta poteva avere maggiore attenzione su quella che era la crescita dello stanziamento dei fondi, poi bisogna vedere quali fondi sono stati. I fondi sono troppi e questo non va bene, è inaccettabile. Questa crescita è già, questo è un errore gravissimo politico. Sì. Poi sull'uso dei fondi bisogna andare a fare approfondimento. Lei pure lo sapeva, anche la Polverini lo sapeva. Anche la Polverini doveva saperlo di questo aumento dei fondi. Possibile che lo sapeva solamente Fiorito, i consiglieri del PDL? Cioè lei qualche, anche per una questione di controllo, qualche responsabilità ce l'ha avuta? Non è che ha tuonato contro l'aumento dei fondi, non ha detto nulla, perché evidentemente le cose le stavano bene così. Non c'è dubbio che ci doveva essere, da chi era lì alla regione, un maggior controllo sull'aumento dei fondi. Ecco, poi anche la Polverini, ovviamente, certo, non è che dipende dalla Polverini. Se no, l'uso no, ha fatto usi impropri di quei fondi. Sulla crescita dei fondi non c'è dubbio che anche la Polverini ha le sue responsabilità. Alla fine, ma guardi, però Renato è una persona che in questi anni ha guidato la regione con grande figlio, con grande efficienza. Ma questo... Lo voglio dire in questo momento, perché poi è facile fare le conclusioni di un certo tipo. Lui nella sanità, nella riduzione di enti, in tanti interventi, in anni drammatici. Ho capito. Donna Assunta Almirante oggi, sì, Gasparri, in un'intervista al Quotidiano Nazionale, dice, adesso per carità non voglio fare il populista a tutti i costi, però la signora Almirante dice, a proposito di questo scandalo, mio marito, che lei conosce bene, che lei conosce benissimo, ha conosciuto benissimo, certo, non è con noi no, vabbè, conosce nel senso, conosce nel senso che ha conosciuto, certo, cioè, è stato un onore conoscere. Andava in 500, altro che SUV, andava in 500, altro che SUV, insomma, la gente di fronte a questo enorme aumento dei soldi dati senza giustificazioni poi ai gruppi consiliari del Lazio, ma sarà avvenuto anche da altre parti, perché gli scandali emergono da altre parti, è incazzata nera, questo, no, lei lo capisce o no? Ma, guardi, non mi dica lo capisce o no, perché francamente è un modo un po', come dire, offensivo. Tanto la Polverini si è dimessa ufficialmente, già l'avevamo detto. Posso da qualche dire minuto una cosa in più a Gasparri? Allora, no, a Gasparri voglio dire solo questo, toccherebbe a me, perché mi ha fatto una domanda Cruciani. Sì, pronto? Sì. Sì. Giorgio Almirante sì. è il politico che quando furono istituite le regioni fece un formidabile ostruzionismo in Parlamento, tenne un discorso di 8-9 ore e disse poi successivamente, quando le regioni cominciarono ad operare, che quello delle regioni era il terzo mistero di Fatima, proprio per la difficoltà già al tempo di Almirante, è mancato nel 1988, le regioni esistevano già da 18 anni, la difficoltà di comprendere la gestione di però, alcuni fondi Gasparri, delle regioni. Se non fosse intervenuta la Banca d'Italia, se non se vuole facciamo un discorso serio sulla mutazione antropologica nella politica, che è certamente un fenomeno. Ma l'avete cacciato Fiorito o no? Perché lui dice che il PDL non lo può cacciare. È stato cacciato dal PDL o no, Fiorito? Allora, il PDL ha uno statuto. Il segretario ha il potere di sospensione. I propri viri possono sanzionare l'espulsione. Mi auguro che una volta avvenuta la sospensione, che è già in atto, i propri viri si riuniscano al più presto e sull'evidenza dei fatti decidano l'espulsione. Va espulso? Secondo lei sì? Secondo me sì. Addirittura la Meloni dice che bisognerebbe dargli un calcio nei denti, insomma. Io parlo dell'espulsione, poi la magistratura prenderà le decisioni. I calci nei denti no, i calci nei denti no. Ma quelle sono espressioni di rabbia e di indignazione. Io sono molto indignato perché ho una concezione diversa dalla no, ma io questo lo so. Io sono in prima linea da molti anni, da quegli anni di Almirante, che girava con la 126 anche in epoche di terrorismo e di minacce pericolose nei suoi confronti, ma lo faceva perché negli anni del terrorismo, perché l'ultimo dei militanti della destra poteva cadere sotto un colpo degli avversari, voleva correre gli stessi rischi. Era un messaggio. Parenzo, dimmi qualcosa. Oggi non siamo per fortuna negli anni del terrorismo, però la mutazione antropologica, si può fare politica senza avere il sub, senza tante cose. Ognuno di noi risponde del suo stile di vita. Io cerco di essere, come dire, coerente con comportamenti che mi sono stati insegnati da ragazzi. Io resto stupito del fatto che nessuno prima dell'intervento di Banca Italia, dell'intervento della Guardia di Finanza e poi successivamente delle indagini su signor Fiorito abbia mai aperto bocca dicendo guardate, alzando il dito anche dall'interno, soprattutto dei gruppi, compreso quello del PD della Regione Lazio, per carità, abbia alzato il dito per dire guardate che forse questi soldi sono troppi. I radicali lo hanno fatto. Il gruppo del Partito Democratico nell'ufficio di presidenza c'è scritto anche sul Corriere della Sera di oggi, quindi non lo dico io, ha approvato in maniera unanime questa lievitazione di fondi. No, ma questo lo so. Siamo utilizzati correttamente, questo è tutto da vedere. È tutto da vedere. Comunque, perché lei sospetta che PD, anche il Partito Democratico, l'abbia usato male? Non lo so, sinceramente non lo so. Guardi, quando io leggo spesa al ristorante dal dettaglio, mi deve spiegare se lo fa un gruppo è una cosa inopportuna, se lo fa un altro è un atto virtuoso, se è inopportuno lo è per tutti, se poi la fattura è falsa non sono in grado di dirlo io e questo lo accerta. Allora, un attimo solo che abbiamo il PD ha approvato unanimemente. No, ma questo l'abbiamo detto, l'abbiamo detto. Però la regione, insomma, la guidate voi, non è che la guida il Partito Democratico. È vero che i soldi l'hanno presi da 1 a 14 l'hanno deciso tutti. Un attimo solo, pubblicità, torniamo subito. 800 24 00 24, la Zanzara vive e lotta insieme a voi. Smetto di rompere le scatole. Eccoci qui, allora la Polverini ha appena detto che questa vicenda, le dimissioni sono irrevocabili, che questa vicenda è nata da una faida interna al PDL del Lazio dopo la vicenda della presentazione delle liste e che ha ringraziato l'UDC perché dice, sostiene, e sta parlando proprio in questi minuti, che è l'unico partito che gli è stato vicino. Comunque ha ricordato solamente l'UDC. Ora voglio capire un attimo una cosa da Gasparri. Innanzitutto se ha fatto bene, perché per esempio il sindaco di Roma, Alemanno, che lei conosce bene, dice che le dimissioni sono una cosa ipocrita, lei non è nemmeno indagata, insomma si dice contrario a questa questione delle dimissioni. E seconda cosa, insomma, secondo lei la Polverini è pronta per il passaggio ad un altro partito, secondo lei? Guardi, commentare le cose mentre stanno avvenendo. Lo so, è un però po' la sua sensazione qual è? Io non lo so cosa farà da Polverini. La mia considerazione è che quest'uso di fondi è stato disinvolto, probabilmente ci sono anche casi di rilevanza penale e chi da tanto tempo. E questo l'abbiamo detto, ma ha fatto bene o no? Ribellare a queste cose. Però la Polverini non lo so che cosa farà. Per il momento sta facendo una conferenza stampa con cui si dimette. Il PDL, ma ha fatto bene a dimettersi o no? Sostenuto la sua azione, quindi adesso e l'UDC invece ha fatto mancare il consenso, perché sostanzialmente Casini poco fa in un altro telegiornale aveva detto che si sarebbero dimessi, insomma, che si doveva dimettere. Quindi non lo so adesso, francamente, non avendo seguito la conferenza stampa. No, certo, vabbè, lasciamo perdere la conferenza stampa. La conosco da tanti anni e quindi quando sarà il momento con lei per sapere quali sono le sue valutazioni. Ma forse quello che è avvenuto è gravissimo. E che le persone che hanno sbagliato devono pagare. Ma doveva resistere? Politiche, che per quello che riguarda i fatti penali, se ci sono, e credo ce ne siano, nelle sedi penali. Sì, questo d'accordo, però Gasparri, adesso non siamo qui a fare, lei lo sa come, come questa trasmissione come funziona. Il problema è un altro, adesso al di là delle dichiarazioni delle sede, della sede penale eccetera eccetera, la cosa che voglio capire da lei, una domanda, una risposta chiara: ha fatto bene a dimettersi, sì o no? La situazione era insostenibile? Secondo me doveva proseguire nel far approvare quelle misure di riduzione dei seggi, di azzeramento dei fondi. E poi dimettersi. Perché alcune le avevano approvate forse, altre erano ancora da discutere e da approvare, quindi forse si poteva fare questo percorso e poi dire: signori, ho fatto queste cose, il Consiglio le ha approvate, quindi chi verrà dopo di me agirà in un contesto bonificato. Forse avrei fatto, cioè, approvare però queste cose al posto delle persone, no, approvare e poi dimettersi, ciascuno di noi infrangenti così difficili, no, certo, approvare e poi dimettersi, dice lei, oppure continuare ad andare avanti, cioè doveva resistere secondo lei? No, poteva far approvare queste cose e poi probabilmente anche dimettersi, ma le ripeto, secondo me è grave quello che è avvenuto a monte di questa vicenda, e siccome se ne discuterà immagino a lungo, abbiamo detto prima che anche la lievitazione dei fondi, anche come fossero stati tutti correttamente usati, non era stato un fatto positivo e andava frenato da chi ne aveva conoscenza. E lei ha avuto qualche responsabilità, anche la Polverini ha avuto, bisogna dirla questa cosa o no? Anche la Polverini ha avuto qualche responsabilità, non la Polverini sostiene di mancata vigilanza. La Polverini sostiene che queste decisioni venivano prese nel Consiglio regionale, ma l'ufficio di presidenza dalla Giunta. Credo che però gli assessori, quelli soprattutto che gestiscono il bilancio, un parere lo avranno dato. E anche il presidente, insomma, è possibile che non fosse a conoscenza, anche se non fosse stata a conoscenza, peggio. E glielo chieda. Passiamo ad altro, Parenzo, che la cosa è troppo calda per essere giudicata così. No, ma io volevo capire solo una cosa dal senatore Gasparri. Cosa? Se che volevi dipendesse, capire? Se dipendesse da lui, si accetterebbe una candidatura di nuovo di Fiorito, visto che lui ha intenzione di ricandidarsi. Ma certo che ad no, oggi, come vuoi che ti dimentichi? Deve trovarsi un altro partito. Io non sarò nel partito che dovesse candidare Fiorito, quindi non credo che si candiderà con noi e non so neanche se si candiderà. Ostenta un po' sicurezza, ma francamente mi pare... come dire, ha tradito i valori anche del mix, quelli, il partito dal quale venite, perché mi pare abbastanza evidente. Vabbè, ma questo che vuoi che ti dica, certo che ha tradito. No, voglio qualsiasi cosa, scusi, perché se uno non era del mix poteva fare quello di cui Fiorito è accusato, non credo. No, perché voi eravate quelli delle mani pulite. L'onestà nella storia dell'MSI. Spero che non sia un monopolio della storia della destra. No, ma infatti... No, ma voi eravate quelli dove c'era Abbiamo capito. Che dormiva in macchina. Abbiamo capito, l'abbiamo già detto, Parenzo. Lui era fuori studio, quindi non ha... L'abbiamo capito. Scusi, e io vorrei capire da lei però, Gasparri, prima di lasciarla, mi dia un giudizio su tutte queste persone che dicono no alla Russa e no a Gasparri, in coppia vi nominano, no? Guardi, spesso anche da noi, la signora De Girolamo... Speriamo che noi evitassimo questa discussione. Mi scusi, è un onore, perché io e la Russa siamo candidati alla presidenza del Consiglio, quindi non siamo in competizione con Renzi. Renzi compete con Bersani in primo luogo e poi con Berlusconi, con Alfano, con Vendola, vabbè. Con Casini, per cui non essendo io e mio amico La Russa in competizione per la premiership, ringraziamo per essere messi in una competizione che francamente non ci vede protagonisti. Quindi questa è la prima considerazione, come se dicessi: Cruciani non diventerà quest'anno direttore del Corriere della Sera, è meglio il direttore attuale De Bortoli. Lei è un bravo giornalista, casomai lo diventerà un giorno, ma oggi nessuno... Non sono in competizione, certamente. No. È un bravo giornalista, farà il direttore del Corriere. E quindi, francamente, è un argomento che non esiste. Ma perché... Tra l'altro qualcuno forse, preferendo... Il problema è un altro, siccome è Berlusconi, il nostro candidato, Alfano, il nostro segretario, forse qualcuno del centrodestra, sotto preferendo Renzi a Berlusconi, non ha il coraggio di dirlo e usa altri nomi che non c'entrano niente e che non hanno nessuna aspirazione di essere in questa competizione. In privato vi chiamano fascisti, che può dire e non può dire, In privato vi chiamano fascisti apertamente, no, non dico i nomi, glielo dico io. Sì, scusi un attimo, allora, ha capito, qualcuno forse non vuole Berlusconi, non ha coraggio di dirlo, preferisce Renzi che è di un altro partito, il PD, e mette in mezzo persone che francamente non c'entrano a niente. E per la De Girolamo perché lo fa secondo lei? Non lo per so, esempio chiedere a lei, quindi io non ho proprio da polemizzare. Ma cercano posti, Galan, De Girolamo, eccetera. Ritengo che sia una sovravalutazione metterci nel novero di quelli che devono diventare presidente del Consiglio. Per noi sono Berlusconi o Alfano le persone. Ma lo fanno per i posti, cercano spazio, visibilità, perché cosa? Lo devi chiedere a loro, già ce l'hanno i posti, quindi non hanno bisogno di venne altri. Beh sì, dice, c'è bisogno, fra il 2013 magari di cercare qualche posto. Vabbè, quello, poi ci sono elezioni di mezzo. Senta, ma la regola elettorale quale sarà? Cioè, c'è ancora. Le ha fatto piacere vedere la Minetti che sfila in passerella? Minetti vista, PDL? Ma le foto ho l'ha vista? Ho qualche cosa, e quindi sicuramente una bella ragazza, ha sfilato bene. Cioè. Quello sicuro. Però non pare... mi sono mai occupato molto di, né di sfilate di moda né della Minetti. La Santanchè di... Vabbè, d'accordo, però insomma avrà fatto bene, ha fatto bene al PDL questa sfilata oppure ha fatto male? Questa sfilata? Sì, questa sfilata. No, penso, in questo io non sono per le sfilate, anche in un altro tempo non avrebbe fatto bene, ognuno deve fare le sue cose, se uno fa il politico, fa il politico. Non deve sfilare in passerella. Sfilate, fa le sfilate, le due cose mi sembrano un po'... Una volta ci accusavano che c'erano quelli che facevano le sfilate militari e che volevano fare, che ne so, colpi di Stato. È rassicurante passare, forse, dalle accuse di golpe alle sfilate militari alle sfilate di moda. È rassicurante. Ritrovo Gasparri in queste battute, anche in questa brutta giornata per il PDL, ritrovo Gasparri con le sue battute, non è possibile, l'avevamo perso nella serietà, la sento un po' moscio. La giornata, guardi, è assolutamente una giornata drammatica. Vabbè, ma succede nella politica, dimissioni, cambiamenti. No, non deve succedere quell'uso dei soldi, ha capito? Poi le dimissioni possono succedere. Però ma la Santanchè dice che la Santanchè dice che vada a Berlusconi e dice di cancellare tutto, il PDL va cancellato, eccetera eccetera, anche il nome, rifare un nuovo partito o no? Metteremo la cancellieri. Va cancellato, mettiamo la cancellieri. Vabbè, che c'entra. Ma così, senta, io ora, fa le battute, facciamo le battute. Ma no, ho una domanda che invece mi interessa molto rispetto anche al posto dove lavoro. Ma la legge Gasparri, quella... Oddio, ma che te frega della legge Gasparri? Aspetta, ma che c'hai oggi? Che c'hai oggi? La legge Gasparri, quella che porta il suo nome. Ottima. Mediaset di Compae, la 7, tecnicamente la sua legge. Allora, ma non è più un problema, no. Ma non è più un argomento questo qua. Ha rinunciato ad acquistare la 7, come lei avrà letto. Non lo so se l'ha letto, non lo so se l'ha letto. Dopodiché ci sono dei limiti antitrust, ma può, in quella legge, e la somma tra quello che vale oggi Mediaset e la 7 non sfondava quei limiti antitrust. Però per la sua gioia, Mediaset, Sky ed altri hanno annunciato che non compreranno una televisione simpatica, bella, che però perde, mi sembra, 200 milioni di euro l'anno. Cioè non è un gioiellino, dice lei. Magari la Telecom, che è proprietaria, la potesse vendere a Sky, a Mediaset o a Parenzo, perché chi se la compra si carica una perdita. Cioè, al di là che è una bella televisione simpatica e frizzante, comprarla vuol dire accollarsi 200 milioni di euro di perdita. Dunque, nemmeno Fiorito ce la farebbe a reggere. Dunque alla fine non se la compra nessuno, dice lei. No, io credo che sarà difficile trovare l'acquirente, ha capito? Quindi hanno fatto la polemica sui potenziali acquirenti, ma in realtà ho visto la fuga dall'acquisto, perché insomma è un impegno oneroso. Dice altro che gioiellino, dice lei, no? Non è che dico gioiellino, guardi, i bilanci, è un'ottima televisione, fa programmi interessanti. Però perde un sacco di soldi. Se uno fa investimenti, non li fa per perdere. Lei se la comprerebbe una televisione che perde 200 milioni? Ma io, figuriamoci. Ma non è questo il tema. Ma adesso non difende i tuoi... Quando si compra e si vende, si guardano i bilanci. Comunque, in base alla sua legge potrebbe comprarla, anche se non è interessante. Ma non la compra, perché? Ma potrebbe, in base alla sua legge, potrebbe, ma basta questo. Comunque, chiami quelli di Mediaset, che devo dire io, no, ma se lei ha detto che in base alla sua legge... In base alla sua legge potrebbe comprarla, questo è il tema, fine, va benissimo. Poi, ma il problema qual è? Che poi alla fine, casomai... Mi basta questo. Che la Fiat se ne va, la cultura non si sviluppa. Attenzione, perché se noi poi facciamo diventare dei nani le nostre aziende, rischiamo di non avere crescita, investimenti, occupazione. Ma che c'entra questo? È un discorso un po' complesso che si potrebbe fare in un altro contesto. Quindi non vorrei che le lotte ideologiche portassero al nanismo delle aziende. Ah, ho capito. Parlare di questo, della Fiat, cioè lei dice, lei si... farmaceutica, no, certo, settori. Cioè voglio dire, lei si augura anche cioè non, per lei andrebbe bene Mediaset che compra. Io mi auguro che in Italia si rispettano dei limiti antitrust, e che però si eviti in tutti i settori, l'ho fatto l'esempio dell'automobile o della farmaceutica, di fare battaglie ideologiche che poi fanno impoverire il tessuto produttivo e occupazionale del paese. Passo un elettore di Gasparri che mi ha raggiunto. Aspetta qua. un attimo, un attimo solo, voglio chiedere una cosa. Oggi sei impazzito. Intanto la Polverini ha detto: ho interrotto il cammino di un consiglio non più degno di rappresentare il Lazio, questi signori li mando a casa io. Questo ha detto la Polverini qualche istante fa. Le adozioni gay, monta la cosa, Gasparri. Pisapia ha detto che è a favore delle adozioni gay, c'è la cosa di Vendola. In questo paese ci sono problemi sociali e occupazionali notevoli. Io vedo che la sinistra si sta occupando molto di questi temi, per carità, importanti ma non centrali. Vendola ci annuncia il matrimonio gay, la sua volontà di adottare un figlio. Pisapia a Milano mi pare che ci sono vari problemi di sicurezza, di vita quotidiana, si occupa delle adozioni gay, che tra l'altro non è un tema di competenza del comune. Crocetta, candidato del PD in Sicilia, dice che se sarà eletto non fa più farà sesso, castità, perché essendo omosessuale non vuole polemiche. Ora, io non sono per nessuna discriminazione, però mi sembra un po' maniacale la centralità di questi temi. Comunque io difendo la famiglia tradizionale, vabbè, questo lo sappiamo, e ritengo che per un figlio ci vogliono un padre e una madre. Ma un bambino non può essere felice, no, ma un bambino non può essere felice lo stesso anche con due uomini e con due donne. Secondo me ci possono essere problemi proprio di equilibrio educativo, di psicologico. Ma scusi, ma io non faccio un discorso solo da cattolico, e lo sono, ma nella natura la vita nasce dall'incontro dell'uomo e la donna. E allora? Quindi non è che Pisapia cambia il mondo, io e lei. Cioè, ma meglio un bambino nell'orfanotrofio che... Evidentemente, se il mondo è così, non, anche se uno non fosse credente, il mondo, la vita nasce così, e ci sarà una ragione. Io credo che per l'equilibrio sia più giusto avere un padre e una madre. Ma è meglio avere un bambino nell'orfanotrofio? No, ma per carità, nessuno è obbligato. Un'ultima cosa, è meglio avere un'idea diversa. Assolutamente, è meglio un bambino dell'orfanotrofio o con due uomini o due donne? Sa quante coppie formate da un uomo e una donna aspettano anni e anni per un'adozione? Si accede l'iter per le adozioni, ci sono molte coppie questo lo sappiamo, donna, che devono attendere anni. Quel bambino metaforico che lei cita potrebbe trovare con più rapidità, se ci fosse più volontà di favorire questi percorsi, una famiglia con un padre e una madre. Benissimo, ma vuol dire, se ci fosse un'alternativa, orfanotrofio o due uomini o due donne, lei che cosa... Questa è una domanda assurda. Ci sono, ma come una domanda assurda? Donne. L'alternativa è l'orfanotrofio o le persone che vogliono adottare essendo un potenziale padre e una potenziale madre. Quindi questa è la realtà. Ma non è una domanda assurda? Domanda, come dire, insomma, fuori dalla realtà. Ha possibilità di crescere, ha possibilità maggiore, diciamo, crescerebbe meglio in un orfanotrofio io o con una famiglia? Cresce meglio in una famiglia formata da un padre e da una madre. È d'accordo. Ma perché non vuole, scegliere tra questa cosa qua? Non è che ci sono bambini che nessuno vuole adottare, allora piuttosto che lasciare in orfanotrofio li diamo a una coppia formata da due uomini o da due donne. Ci sono tante coppie, ma questo lo sappiamo, da una donna che non ricevono risposta in tempo. Ma il desiderio di Vendola è un desiderio assurdo, è un desiderio irrealizzabile. Io non sono d'accordo, ma si potrà essere liberi. No, ma certo, ma come lo giudica questo desiderio? Una follia, un desiderio assurdo? È una cosa sbagliata. È una cosa, un desiderio assurdo, un desiderio... No, ma lei ha detto, io ho detto che... Una cosa sbagliata. La famiglia, la vita, il diritto naturale, la fisica... Dunque, può dire a Ben... La vita. Se il mondo doveva essere fatto in un altro modo, sarebbe stato in un altro modo. Ma non è così. Ma direbbe a Bendola, vai all'estero, allora. Non stai, se vuoi un figlio, vai all'estero. È sbagliata, che un bambino ha bisogno... Di un padre e una madre. ...che una famiglia con un padre e una madre gli può assicurare. Va bene. Dico che ho un'opinione diversa. La ringrazio, a presto. Grazie a lei. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa. Allora, la cosa incredibile è che fino a venerdì la Polverini diceva: se voi ve la sentite rivolta ai consiglieri regionali, alla giunta, io me la sento e si va avanti. Venerdì, venerdì. Adesso li ho mandati a casa io. Anche nel comportamento della Polverini, si è detto con il massimo rispetto, qualche incoerenza c'è, qualche piccola, però, io dico piccola incoerenza c'è, però che... Però le va dato atto di un gesto importante. Sì, ho capito, va benissimo, però non che si c'è? Può passare, andiamo avanti e poi due giorni dopo le dimissioni, così... Avrà valutato che non ci sono più le condizioni per farlo, diciamo che il PDL sono gli stessi per le dimissioni di Marrazzo... Quando non c'era nessuno scandalo, cioè voglio dire, ma di cosa stiamo parlando? Come non c'era nessuno scandalo? Nessuno scandalo. Nessuno adesso scandalo. Il moralista, dai, sentiamo il moralista, sentiamo Don Cruciani. Sentiamo. No, scusi, scusi un attimo, non che sia andato a trans, non scusi che sia andato a trans. Qual è lo scandalo? Ma se tu vai con le macchine, è più grave che il consiglio di presidenza. No, scusa. Ma cosa c'entra? Ma con le macchine della regione, con l'autista della regione, ma... transessuali, dai, insomma, di che parliamo? Qui dai. È più grave che il Consiglio di Presidente della Regione Lazio abbia votato quei finanziamenti con tutti i partiti, infatti tutti li mettono. Ma bisogna vedere se sono illegali, è una questione politica. Che il povero Marrazzo che ha fatto. Ma io non ti sto dicendo che è meno grave o e più lo hanno grave. Mandato a casa con una campagna di stampa e con una campagna politica. Vergogna. Vabbè, adesso difendi Marrazzo, benissimo. Vergogna. Francesco da Treviso, benissimo. Hanno massacrato un uomo con i suoi affetti, con la sua famiglia, in modo. Ma veramente si è massacrato, da solo? No, si è massacrato da solo. Vergognoso. Francesco hanno da Treviso. Un uomo in modo vergognoso. Va benissimo, Francesco da Treviso, buonasera. Buonasera, parla Francesco. Vada. Volevo sentire un vostro parere a proposito dei bambini che quando andranno a scuola, se adottati da una coppia di omosessuali, e gli altri bambini chiederanno come si chiama tua mamma, come si chiama tuo papà. In questo mondo in cui portiamo i bambini dallo psicologo perché si separano papà e mamma, credo che non siamo ancora maturi, probabilmente tra 50 anni sarà tutto più facile, dobbiamo guardare a cosa subirà il bambino quando a scuola chiederanno come si chiama tuo papà o tua mamma. Lei cosa pensa? Io penso che più sento queste cose più sono favorevole all'adozione tra omosessuali, naturalmente con gli stessi criteri e con la stessa con lo stesso percorso che viene utilizzato per le coppie eterosessuali, mica canali preferenziali. Io ero in auto con mia figlia che ha 16 anni e che, ascoltando quello che voi stavate dicendo, dice: papà, è tutto bello, bellissimo, ma non siamo ancora maturi in Italia. Cosa vuol dire non siamo maturi? Non c'entra niente. Io non dico che bisogna farlo domani mattina, dico seriamente, io sono a favore, dico che bisogna porre la questione, che poi va portata in Parlamento se c'è bisogno di portarla in Parlamento. Qualcuno dice che addirittura non c'è nemmeno bisogno di portarla in Parlamento, e si creano le condizioni per, se c'è una maggioranza. Luigi da Bologna, buonasera. Buonasera. Dica. Io prima stavate parlando di uno che aveva rinunciato al sesso, no? Sì. E allora volevo sentire come aveva fatto, perché io ho 74 anni, sono pensionato semplice, e tanto che sto cercando di smettere, perché insomma comincia a pesare il fatto che si spende dei soldi, bisogna stare sempre in prima linea. Allora dicevo come faceva per rinunciare al sesso. Poi sentendo Ho capito, scusi, lei Giovanni ha, Luigi, ha 73 anni? 74. 74 e non riesce a smettere? Sì. E come fa, scusi? Non so, è fatico uscire dal tunnel. Dal tunnel di che? Dipendenti dal sesso. Ma lei è dipendente dal sesso? Sì. Ma che vuol dire dipendente dal sesso a 73 anni, scusi? Che non riesco a smettere, che volevo smettere, ma non riesco a smettere. Ma come fa? Cioè, come è ancora efficiente da questo punto di vista? Certamente, appena vedo una donna vado giù di testa, mi dimentico Dio, patria, famiglia, e gli vado dietro. Ma lei ha una moglie oppure è single? Da adesso sono vedova attualmente, ho avuto due mogli. Mi perdoni. Due mogli, uno separato oppure sono tutte e due decedute? No, tanto per sapere. No, una morte e una impazzita. Una morte e l'altra impazzita? Sì, l'altra non stava bene di te. Ma che vuol dire una impazzita? Vabbè, poveretto. No, per carità, non voglio dire niente. Era disturbata, beh, certo. Beh, anche lei però mi pare un po' disturbato. Comunque, no, perché è disturbato? Scusa, il signor Luigi da Bologna. Il signor Luigi da Bologna dice di essere dipendente dal sesso, non ne può fare a meno. Ma non è l'unico, ne conosco altri. Ma lei utilizza non è l'unico. Lei utilizza una pillolina? No, anzi, io ho bisogno di calmanti, non uso mica la pillolina. Niente, ma lei proprio alla grandissima. Come si chiama lei di nome? Luigi da Bologna, il signor Luigi. Luigi, il terrore dei mariti. Il terrore dei mariti. Ma lei, scusi, va, a lei non gliene importa niente una di 20 anni, 25, 50, 60? No, le voglio mature. Le vuole mature, beh sì, certo, le vuole mature. Hai qualche domanda per il signor Luigi Parenzo? Sì, no, questo mi interessa molto. Lei ha chiamato la trasmissione giusta, peraltro, per porre questa questione politica. Assolutamente, soprattutto dopo le 20:15. Sì, cioè lei quante volte, diciamo così, alla settimana riesce ad entrare in azione con la sua battaglia? Che mi capita, tutte le volte che mi metto in caccia sono pronto, ma in caccia che vuol dire, signor Luigi, mi scusi? Che vado dietro una donna, vado dietro. Ho capito, ma voglio dire, alla sua età dovrà pure darsi una regolata da un certo punto di vista, avrà dei luoghi dove andare, dei posti particolari dove puntare la sua preda, oppure va per strada così all'avventura? C'ho tutti gli occhi in questo mondo, ma io me le trovo davanti ai piedi e non so come fare, insomma. Cioè, in che senso se le trova davanti ai piedi? Non vado a pagamento, non vado. Ah, ecco. Io piaccio nonostante l'età, allora ho l'approccio facile, e basta che apra bocca che sono già sulla strada buona. È già fatta, insomma, diciamo. È già fatta. Ecco, in quanto tempo, c'è cioè, la cosa più veloce che ha fatto, in quanto tempo sì. ci ha rimorchiato una, subito, all'istante? Beh, ci vuole qualche giorno, perché c'è qualche giorno, certo, non c'è dubbio, non c'è dubbio. No, ma poi diciamo la ricercano perché la ritengono un bravo prestatore d'opera oppure no? Sì, sono anche un bravo prestatore d'opera, modestamente. Quindi cioè, modestamente, dopo. Lei gli dà giù parecchio, insomma. Vabbè, allora se te faccia così, lasci il suo numero in diretta, il suo cellulare. Sì. Donne di Bologna, possiamo fare anche, abbiamo questa convenzione col Ministero della Salute, le spiego. La ringrazio. Senta, da che parlavate anche della Spolverini lì, di quella gente la lì. Spolverini, sì. È inutile che faccia dei copertini, che dicono non sapevo, ma chi la voglio raccontare? Sì. Guarda che il popolo è tutto, lo sa che sono un branco di ladri, dalla vabbè, donna adesso non passiamo, adesso lei è passato dal rimorchio facile a tutti sono ladri e va bene, però caro Luigi, noi restiamo sull'argomento principale che mi sembra quello sono forte. Sono un estremista, io sì, sono un estremista in tutti i casi. Lei è un estremista in tutti i casi. E, io vorrei capire una cosa, lei quante volte riesce a farlo durante il giorno a 73 anni? Anche due volte alla settimana, anche se c'è, la materia prima, anche un giorno dietro all'altro, poi dopo mi metto un po' in mutua, insomma. Beh, lei è il top, siamo al top qui, Farenzo, siamo al top. Ma non ha mai sentito magari un dolore, una fitta al cuore mentre era in azione, no? Ma perché gliela stai tirando? Io sono un ciclista della domenica, allora se devo scattare, scatto quando vado. Cioè, a lei piacerebbe morire sul campo, diciamo? Sì, vabbè, magari, però io volevo smettere per dedicarmi... come fanno i pensionati, a passeggiare, a contemplare la natura. I nipotini, avrà dei nipotini, no? Sì, io ho dei nipotini, è quello che mi fa vergognare. Ma perché si deve vergognare, scusi? Io conosco un'altra persona che finirà così. No, caro. Non conosce nessuno, sì, tu, cretino. Sì. Allora, non ho capito, Luigi. Sì. Luigi? Sì. Voglio capire una cosa, scusi. Si chiama Luigi come De Magistris? Sì, ma che c'entra adesso? No, vabbè, è un'associazione di idee che mi è venuta così. De Magistris non lo reggo, Scusi un attimo, signor Luigi, io vorrei capire però con esattezza una cosa. Lei si pente di essere così? No, però vorrei cambiare registro, insomma, vedo che tutti della mia età mi trovo da solo, quando al bar parlano del Bologna, parlano della politica, parlano... Io di che cosa parlo? Allora perché lei è in isolando, ecco. Perché lei parla soprattutto di che cosa? Ma io vorrei scambiare qualche esperienza, insomma, con quelli della mia età. O raccontano delle gran balle che si capisce subito, non c'è un'amicizia vera, ecco. Vabbè, caro Luigi, comunque forse ha ragione Parenzo, bisognerebbe dare il numero di telefono a questo punto. Perché? Un bel numero di cellulare, lo vogliamo dare? Luigi da Bologna. No, non lo do perché ne ho già abbastanza di così, ne ho già abbastanza. Ne ha già abbastanza, non ne può più. Come fa a guarire? Chiedevo a quello lì se rinunciavo, stava parlando uno lì che voleva rinunciare al sesso, aveva rinunciato al sesso, chiedevo dal punto di vista intellettuale perché è il pensiero, prima devo fare il pensiero. Beh, ma ci sono delle cliniche, caro Luigi, ci sono dei medici, uno si può rivolgere a quelli, cioè non è che... I medici non capiscono niente. Lei dice, Lei dice. Vabbè, Luigi da Bologna, lei è numero uno, la richiameremo, Gianni da Verona. Sì, buonasera, niente, sentivo parlare il signor Gasparri. Sì. Dipendente di Berlusconi e pagato da noi cittadini praticamente. Beh, dipendente di Berlusconi, questo adesso non direttamente, sì, magari. Comunque è dipendente di Berlusconi. Dipendente di Berlusconi, allora? Se... allora? Quando hanno la regione Lazio si è aumentata i trasferimenti, dove erano loro che erano? Gliel'abbiamo chiesto, Gianni, gliel'abbiamo chiesto e nessuno se n'è accorto. Ah, che bello, che roba da matti, vero? Gianni, cosa vuole che le dica? Ho sentito così. La Polverini, si sente parlare la Polverini, ti viene il vomito praticamente. Polverini, vabbè, adesso, qualcuno gli dovrebbe dire, stai zitta per piacere, no? non parlare, perché ogni volta che parli fai sempre più schifo praticamente. Vabbè, adesso si calmi, il problema è un altro, lei ha ragione quando dice dov'era, perché quando questi soldi, al di là del loro utilizzo, sono passati da 1 a 14, esatto, dallo scranno più alto della regione Lazio, non è che abbiamo sentito le proteste, no? Mi incateno alla sedia perché questi soldi sono tanti. No, non è accaduto, anche perché questi soldi andavano al gruppo, pure al gruppo della Polverini. Bisogna dirlo. Questo bisogna dire le cose, bisogna dirle tutte. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me. Eccoci qui, 20:34, giornata per la politica decisiva con le dimissioni della Polverini, di Renata Polverini, presidente della Regione Lazio. Lei dice per una faida interna al PDL, insomma adesso si apre un problema politico enorme che già c'era all'interno dello stesso PDL. La prima cosa che mi viene in mente, David, è che le capacità persuasive di Berlusconi questa volta non hanno funzionato. Esatto, è qui che cade la leadership del Cavaliere. Vabbè, qui cade, già è caduta forse, però insomma l'ennesima dimostrazione che forse no. Sergio da Cagliari. È da dire il ruolo che ha avuto Alfano in tutta questa vicenda. Bah, Sergio da Cagliari. Perché lo liquidi con bah? Vada, Sergio. Allora, buonasera direttorissimo, buonasera David. Io voglio intervenire sull'intervento di Della Valle a proposito della dichiarazione di Marchion. Perché è uno che effettivamente ha la voce, ha la voglia di dire le cose come stanno in Italia, della Valle. Come stanno secondo lui, naturalmente. Ma io, dal suo punto di vista, mi trovo d'accordo, nel senso che comunque è una voce fuori dal coro, e poi comunque è la verità, nel senso che lui ha detto una frase che andrebbe incisa con lo scalpello nel marmo. Chi non ha servizi da offrire in crisi. Nel momento in cui tu offri delle macchine di merda e non vuole nessuno, non puoi scaricare addosso la colpa agli altri e portarti via le fabbriche nei paesi sottosviluppati, che comunque le comprano perché anche se sono di merda non costano niente, e sfrutti la manodopera, mentre in Italia il lavoratore ha diritto di un minimo per andare avanti. Scusi, non lo Sergio, non ho capito, lei vuole fare l'amministratore delegato al posto di Marchionne, che ha salvato la Fiat? Io voglio dire che è ora di smettere di fare i magnacci che si prendono i soldi e poi quando non gli va più bene se ne va. I soldi pubblici di Riffo di Raffa, di Riffo di Raffa, ci sono un sacco di aziende che li pigliano attraverso la cassa integrazione, attraverso altri metodi. Da quando esiste Agnelli, Sergio, che, scusi esempio, un attimo, lei sono diventati tutti professori di automobilismo adesso in questi giorni, professori di vendita di macchine, ascoltami. Sergio, Marchionne non ha diritto di dare lezioni a nessuno perché d'industria, ma non lasci perdere cazzo. Le lezioni di Marchionne, ma invece ci capisce lei, Marchionne. Capisce lei, Sergio, invece capisce lei, sì, più di lui ne capisco, sì, più di lui, infatti siamo arrivati a questo, lei e Parenzo capiscono di più, infatti la Fiat l'avete salvata voi dal disastro, l'avete lasciata. Sì, infatti l'avete salvata voi da Fiat dal disastro. Ma infatti, ti informo che non è stata salvata. Ma come no, è stata salvata. Non gliel'avrei dati in questi anni, hai capito? Vabbè, è un incompetente allora. È Cristina, è un incompetente. E beh, ma è un capitano, un manager, ha un pelo grosso sullo stomaco grosso così. Ha un pelo sullo stomaco grosso così. Allora? Allora se ne deve andare, ma deve restituire quello che ha preso. Ma lui se ne andrebbe volentieri, veramente. Ma deve restituire quello ma dove, che in che preso. Mondo vive? Deve restituire quello che ha preso. Ma che mondo è? Ma in che mondo vive lei? In che mondo vive? Nell'Italia di Francone da Anagni che ci incula diciamo bravo. Ma che c'entra Francone da Anagni, scusi? C'entra con Marchionne, che c'entra? Sono tutti uguali. Sono tutti grande calderone, Francone fiorito come Marchionne. Vabbè. Esatto, bravo. Sergio, bravo. Cristina da Milano. Cristina? Pronto? Pronto. Buonasera. Oh, buonasera a voi. Scusate, chiudo la radio, almeno non ci sono più problemi. Ok. Vada. Allora, io volevo partire, forse parlato un bel po' di minuti fa, da quel signor Luigi da non mi ricordo cosa. Da Bologna, sì, da Bologna. Bene, che ha definito materia prima. Ora, scusi, io sono una donna e non... Vabbè, ma insomma... Non mi piace, ma proprio è un signore di è un signore di 73 anni. Scusi, io ho un marito di 62, non si fa problemi, e conosco anche... papà, fra virgolette, che non si sono mai fatti problemi oltre gli 80. Ora, se lui ha questi problemi, cioè non è una cosa magari comune a tutti. Ah. Quello che volevo dire non, io... Chi è che ha i problemi, scusi? No, il problema è che quelli che si sentono magari molto macho, fra virgolette, a una certa età, pensano di essere chissà chi. Ora, vabbè, adesso non apriamo la discussione. No, per carità, però il dire già materia prima mi ha dato fastidio, ma comunque il discorso era verteva sul sesso. Ora, al mondo ci sono due sessi, maschio e femmina. Tutti sanno che il maschio è fatto in un modo e la femmina in un altro. L'argomento è, distinguiamo l'accoppiamento che deriva da religioni, politiche... Signora Cristina, oppure, non siamo a un simposio di... Oppure il sesso vero e proprio, che secondo me invece è la cosa più bella che vabbè, lo sappiamo, allora... è stato inventato. Allora, ritornando, se vuole a un problema politico, le leggi, io farei leggi flessibili a tutti, cioè... problema, se vuoi adottare bambini, perché si devono sentire diversi da quello che gli dice la mamma e il papà. Cristina, ma lo sa che non ho capito niente di quello che sta dicendo, nulla, assolutamente niente. No, sto dicendo che quello che voglio dire io, il problema del sesso, voglio capire se voi lo volete vedere dal punto di vista... Ma quale punto di vista? Naturale oppure naturale politico? Oppure politico, vabbè, buonanotte. Giovanni da Prato, buonasera. Sì, buonasera dottor Cusciani. Dica. A parte, buonasera dottor Cusciani, mi sente? La sento, parli però. A parte le risate mi fa fare stasera, però perché è davvero simpatico determinate cose, ma sono veramente demoralizzato da tutte, da Fiorito. Senta, il viva voce mi dà fastidio. Mario da Pescara. Mario? Pronto? Sì, vada. Di male in peggio qua. Sono Mario da Pescara. Sì, passo a Giovanni. Volevo dire, passo a Giovanni dalla provincia di Catania perché sento male. Stasera voglio cassare tutti quelli che si sentono male. Giovanni. Cruciani, buonasera, mi sente? Vada. Soltanto per esprimere il mio giudizio in merito al Lazio Gate. Io ritengo invece che sia sbagliato pensare di dover tagliare soldi alla politica. Quindi io mi trovo d'accordo su quasi il 90% della sua linea di pensiero su tantissime cose, però è un pochettino riduttivo pensare di poter togliere i soldi alla politica. Ma come riduttivo? È l'unica strada possibile. E Cruciani, soltanto un'osservazione. Sì, ancora con la stronzata dei ricchi che poi sono gli unici che farebbero politica, ancora con questa stronzata. Io credo che la politica è l'elemento che permette di capire se siamo un paese democratico e moderno o meno. Ma no, ma che cosa strana? Ma guardi, si gira attorno, lei crede che la politica non incida assolutamente nella vita di Vabbè, tutti allora? Noi? Allora? No, io se adesso volessi portare avanti determinate istanze, non sono un partito, non faccio parte di nessun movimento, faccio il professionista, mi dice perché dovrei io interessarmi alla cosa pubblica, studiare? E che ne so, perché se si interessa, se lo dovessi fare a gratis, perché dovrei farlo? Ma che significa se lo dovesse fare a gratis? Non ho capito, nessuno dice che non deve essere pagato per fare politica, dico semplicemente ma io credo che il problema non è il finanziamento pubblico va cancellato e i rimborsi elettorali vanno cancellati con un tratto di penna. Perché il partito si bussa alle porte e si chiedono i finanziamenti privati come si fa in molti paesi. Toc toc toc, mi date i soldi? Sì, altrimenti no. Impensabile. Guardi, ma non è impensabile, la realtà è in molti posti, guardi, è la realtà in moltissimi posti. Non in Italia. E appunto, Italia. No, purtroppo guardi, non in Italia. La nostra Costituzione è strutturata in maniera molto complicata, ma secondo me, concludo, guardi, prevedere che ci sia che un'istituzione, uno Stato, un'organizzazione pubblica eroghi dei soldi per il perseguimento di interesse collettivo, secondo me è un grande segnale. Sì, sono tutti paroloni questi qua. Che poi ci sia la degenerazione. Sono tutti paroloni che non servono più. Il finanziamento pubblico va cancellato. Scusi, ma lei non è favorevole all'intervento della gente? E la gente in un referendum ha deciso per il cancellamento del finanziamento pubblico. Punto e basta. Mi ricollego anche al discorso che ha fatto. No, lei non si ricollega. Andiamo a Davide da Torino. Pronto? Sì, Davide, dica. Buonasera, bene, io mi presento, sono un operaio, 12 anni che lavoro, voglio solo fare un appunto. Quando io sbaglio in una catena di montaggio, qualsiasi cosa, c'è un responsabile sopra di me che risponde dei miei errori e mi fa il cazzetto a me, è successo così per 12 anni della mia vita. Sì. Lei è riuscito a fare una decina di domande al signor Gaspari, che io rispetto, ma io la seguo tutte le sere, a diversi politici, lei fa domande dirette, sì o no? E riusciamo sempre a sentire le solite, ma forse dipende, io ricordo l'ultima che ha fatto, lei darebbe un bambino dall'orfanotrofio a una coppia di due uomini e due donne? Risposta, ma è una domanda assurda, ma lei sa quanta gente, le coppie sono in attesa di sì o no? È possibile che nessuno si prenda le proprie responsabilità, che nessuno dia una risposta affermativa o negativa e abbia un'idea di pensiero? Hanno una capacità di glissare le domande questi politici che veramente meritano i miei rispetti. Se avessero vissuto la vita reale saprebbero che non si possono sempre nascondere dietro un paravento. È ora di dire sì o no e di prendere una posizione, prendere uno schiaffo o una carezza, a seconda delle condizioni. Bravo Davide, grazie. Luca da Roma. Buonasera Luca. Luca non c'è. Pietro da Pavia. Ciao cari. Buonasera. Siete fantastici. Vada, vada. Sono in trasferta. Allora, per quanto riguarda l'adozione per gli omosessuali, non sono d'accordo. Penso che un bambino abbia il diritto di avere un genitore uomo, maschio, e una genitrice donna, femmina. Gli omosessuali capisco il loro desiderio di avere un piccolino da accudire, da crescere, sì, quello una buona parte della popolazione ce l'ha, però signori, il bambino ha diritto a una normalità di famiglia, di tutto. Sì. Vabbè, Pietro, lei è contrario, mi offra però un argomento più degno, non è sempre il solito argomento, è meglio un padre e una madre, eccetera, eccetera. Siamo ancora a questo livello. Lei pensa che un bambino non possa essere felice insieme a due uomini o insieme a due donne, non possa raggiungere una serenità, non possa vivere tranquillamente, eh? Io penso che abbia diritto. Ma diritto che? Normalità. Ma chi lo decide ha diritto alla normalità? Ma chi le ha detto qual è la normalità? Chi lo dice qual è la normalità? La sua normalità. La sua normalità. La normalità della storia, della natura. La normalità. La complementarità fra uomo e donna nell'allevare il bambino. Magari lei vedrà come motivazioni deboli, ma io sono fortemente convinto che siano delle motivazioni più che valide. Sì, no, per carità, io lo rispetto pure, però insomma, la natura, la natura, sempre le solite cose, né? Eccoci qui, 800 24 00 24. Caro Parenzo, siamo quasi in conclusione di questa puntata che apre un'altra settimana della Zanzara. Grazie. Marco da Modena. Sì, buonasera signor Cruciani. Vada, dica. Allora, io sono super d'accordo con gli ultimi un attimo due solo, interventi. Il primo... Un attimo. Chi è il metà? Sindaco di Cagliari. Non risponde, eh? Non risponde. Come mai? Che ne so. Non risponde. Allora, Marco, che diceva? La voglia di queste due persone di avere un figlio. Loro considerano che questo bambino già possa andare bene, che io non sono convinto assolutamente. Vabbè, di allora... questo, perché crescendo... Sì. In una famiglia del genere sicuramente si troverà dei problemi che poi magari si è in grado di risolverli o meno, questo non lo so. Ma perché ma non ci sono bambini che trovano... Si renderà conto crescendo che sì. Ha una famiglia diversa da quelle altre. Perché invece non ci... perché un bambino si può trovare male anche in una famiglia... Quello sicuramente, ma non è che sto dicendo quello, sto solamente dicendo che non è giusto che un bambino non sia in grado di decidere, se lui fosse in grado di decidere gli chiedessero allora... Ti sta bene avere due papà o due mamme? Allora a quel punto sei capace di decidere che accetta lui, che dice di sì, allora per l'amor di Dio ne può prendere anche 10, ma un bambino non è in grado di decidere, per cui non mi sembra una cosa giusta. Va bene, grazie. Marcella da Roma, buonasera. Ciao, ciao Luciani, e Marcella da Roma. Volevo dire qualcosa sulla Polverini, sono elettrice di destra. Sì. E sono un po' incazzata con sta destra. Poi stavo a sentire la telefonata prima, te parlo romano perché tanto italiano non so buono a parlarci, che quel signore che diceva tocca dagli il finanziamento, ma come per tutto il finanziamento rubano, perché cioè? Si vanno a cercare i soldi. Non ho capito, scusi signore. I politici, che gli demmo da pure il finanziamento pubblico, dice tocca dagli il finanziamento perché se no rubano, sì. E con tutto il finanziamento rubano. Lei ha ragione. E siamo un po' incazzati, che dici lei? Beh, Marcella, lo capisco. Chi è che ha tirato fuori che doveva fare il referendum per levare questi soldi a sti politici? No, c'è già stato il referendum. E chi è che ha tirato fuori? No, c'era stato un referendum nel passato. Sì, quello me lo ricordo, ci ho votato. Però ci hanno preso per culo perché tanto hanno levato per nome e ne hanno messo un altro. Brava Marcella, brava. lei mi ricorda una persona, la mitica Annarella, insomma, no? Sì. La mitica Annarella, dove è finita la nostra Annarella? Grazie Marcella. Sto a sentire, io le sento tutte le sere, ma una volta stavi pure a TG24 sulla televisione. Lo so, però poi ci hanno cacciato via. L'hanno presa a carci. Sì, ci hanno preso a carci. Che dove... i soldi. Senti, poi un'altra cosa di sto Fiorillo che è. Fiorito, ha detto che hanno intervistato, gli hanno detto, sì. Ma perché aveva speso tutti questi soldi? Perché mi era andata male le elezioni? E mi dovevo calmare. A noi quando ce l'ho detto, fa passare senza soldi. Lo so, ma cara Marcella. È così. Poi che cos'è che l'ha colpita in televisione in questi giorni? Eh? De tutto e di più, perché io guardo tutta la televisione. La politica la guarda. La politica, la Polverini, insomma, niente. Poi non mi dimetto, mo si rimette. Beh, sì. Ma che c'è via, per i fondelli quest'altra? Per i fondelli, guarda, io sì. Sono proprio di destra, ma me rode così tanto, perché non so più a chi votare, ci credi? No, ci credo, come non ci credo, certo. La destra ci credo. Fa schifo, la sinistra invece pure. Scusi un attimo. Ha ragione mio fratello, che dice una mano lava l'altra e tutte e due rubero. Scusi Marcella, ma la Minetti? Bravissimo. La Minetti? Minetti fa bene, si è fatta bene, fa bene che rimedi i sordi. Lei dice, eh? Sì. E che siamo tutte Santa Maria Coretti? No, quello no, certo. Io sono nonna, io sto a posto, sono per marito, due nipoti. Niente, non c'è. Sto bene. Ma Grillo le piace, eh? E Grillo mi piace solo all'inizio quando chiacchiera, però dopo sto a vedere che vai a strigne, ammazza è tutta una razza. Non combina niente manco lui, Non lo so, mi piace un po' Renzi. Le piace anche a lei Renzi, Però pure lì vedo che pure quello chiacchiera. Io ero innamorata di Fini. Ha rotto il Movimento Sociale, sì. Ha rotto Alleanza Nazionale, ma ha rotto, sta rompe pure Fli. E non ci capisco più niente manco con lui. Vabbè, su questo. Hai capito a che tanto te devi girare? No, a nessuno, certo. Forse riesce fuori Totò, votiamo a Totò. Chi? A Totò. Chi è Totò? È Totò, è un coso. Il comico. È il comico, dice lei. E Berlusconi? Mi piaceva pure lui. Poi? Però andava tutto bene, ma la Marchesa poi è arrivato questo e ci ha accoppato. Lei dice che è troppo ottimismo, dice lei. Hai capito? Ma adesso si vuole ricandidare, che dice lei signora Marcella? Può darsi pure con il rivoto, mo tocca vedere come parla, come mi piace, perché io non è detto c'ho i paraocchi, a me chi però parla che mi piace ma accontenta almeno a orecchie mia. Però signora basta, no? Ho capito, però che basta, c'è sta Napolitano che c'ha 200 anni, ancora sta là, sta bene perché sta bene, però non c'è sta l'età qui in Italia. No, dice dovrebbero andare via prima, È un pochetto, che qui sono rincoglioniti. Non ce li vogliamo. Non ce li vogliamo. Dice, chiamali rincoglioniti. E D'Alema le piace, D'Alema? No. No, No, mi piacevano i politici di una volta. E chi le piaceva una volta? Mi piaceva Cossutta, mi piaceva Almirante. Tutti quelli che sapevano parlare. Poi ognuno era dalla corrente sua. Sì. Però avevano un ideale. Certo. Non quale ideale c'hanno, che vanno di qua e vanno di là. Nessuno. Ma di che? Cara signora, mamma mia, che schifo. L'abbraccio forte, L'abbraccio forte, cara signora. Ciao, presto. Grazie, ciao. Ciao, cara. Franco d'Alessandria. Buonasera. Vada. Io avevo una cosetta da dire in merito alla vicenda Fiat della Valle. Sì. E quando uno in un discorso dice il tuo amico, vuol dire che di argomenti, di frecce all'arco non ne ha più. Perché è un modo di spiazzare dialetticamente, anche abbastanza in modo offensivo, l'avversario. Chi è che ha detto il tuo amico? Non mi ricordo se è Marchionne o qualcuno. Marchionne, sì. E quindi è come se io mi rivolgessi a lei, a Parenzo, dicendo voi giornalisti, no? Accomunando tutta una fascia immensa in cui ci sono delle diversità esagerate. E dunque? Secondo me non ci sono argomenti e quindi andiamo sul personale di qua di là eccetera eccetera. Poi il personaggio è quello che è, d'altro canto uno che gira al mese d'agosto con un maglione blu. Lei fa male alla maratona, sì, si mette il maglione blu quando fa la maratona. Adesso non è che si può giudicare Marchionne dal maglione blu, No, ma lì vivono di immagine, ci studiano, non si può presentarsi al mese d'agosto con un maglione blu. Non mi pare che in America sia stato giacca, gliela regalo. Ma non mi pare che in America sia stato respinto alla frontiera per i maglioni blu, signor Marchionne. No, però se io avessi la sicurezza di avere la metà del cervello di Steve Jobs e un decimo dei suoi soldi, col maglione ci farei anche la doccia. Però la differenza, l'unica cosa che ho con Steve Jobs è l'età, purtroppo, guarda. Le auguro per lei che non abbia nient'altro in comune, soprattutto per le ultime vicende. Grazie, sì. Ci sentiamo domani 18:30. Andava tutto bene, ma la Marchesa poi è arrivato questo e ci ha accoppato. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Cucù. Radio 24. La passione si sente.